Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. I never take anything for granted. Only a fool. Ed eccoci qui, siamo pronti per una nuova grande puntata di Voice Anatomy. Oggi percorreremo insieme una nuova tappa di questo splendido viaggio nei mondi della voce. Ma rifacciamola, dai. Parleremo di lirica, di doppiaggio, ma ancora di più di cosa c'è dietro il doppiaggio. E poi della relazione tra realtà e finzione, di come la voce possa portarci in mondi immaginari, a volte senza che noi ce ne accorgiamo. Insomma, benvenuti alla terza tappa del viaggio intorno allo strumento di comunicazione più potente del mondo. Signori, la voce. Just the way you are. Quando poi cominciamo così con la voce per eccellenza, ovviamente Barry White, e qui è tutto, sembriamo tutti con delle vocette da donna alzate. Ma cominciamo, a proposito, visto che la voce è donna, e cominciamo con una grande donna che è già al mio fianco, anche se l'avete già sentita parlare, ma non sapete di chi io stia parlando. E allora, lei è nata a Roma l'11 novembre, no, non diciamo. No. Io sono nata il 25 luglio. Che cosa hanno preso qui? Non lo so. Va bene, allora è nata il 25 luglio. Alle ore 10:32. Bene, e il segno zodiacale? È del leone, infatti, una leonessa. È figlia del grandissimo attore, direttore di doppiaggio indimenticato Renato Izzo, sorella di Rossella, Simona e Giuppi. Avete capito perfettamente di chi io stia parlando. Ed è madre delle giovani doppiatrici Rossa e Lilian Caputo, attualmente più concentrata sulle direzioni di doppiaggio. Signori, ecco qui al mio fianco Fiamma Izzo. Grazie, ciao. Eccola, come sempre cominciamo in grande spolvero da questo punto di vista. Prima di cominciare una bellissima intervista e questo viaggio intorno alla voce, voglio ricordarvi tutti i nostri numeri di telefono. Allora, per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Il numero per i vostri sms è il 349 238 6666. Vi ricordo anche il nostro voice box, la nostra segreteria telefonica per i provini. Anche oggi ne abbiamo scelti un paio e uno ci raggiungerà fra poco, dove voi, laici del doppiaggio o della recitazione, potete lasciare la vostra interpretazione, la quale sarà messa poi a disposizione migliori dei bravissimi nostri direttori di doppiaggio. Il numero della nostra segreteria telefonica è 800 28 12 12. E poi c'è anche la mail, non ci facciamo mancare niente qui dentro, dove potete lasciare le vostre storie, saranno raccontate qui in diretta dalle più belle voci e la vostra storia diventerà un vero e proprio film. È Voice Anatomy con la Y, @radio24.it, Facebook Voice Anatomy e poi Twitter ovviamente @VoiceAnatomy. Non ci facciamo mancare niente. E allora, Fiamma, eccoti qui. Eccoci. Quante cose. Tu la voce poi per eccellenza, con te percorreremo infatti moltissime tappe. Sì, cominciamo col doppiaggio, ma poi andremo a finire sulla lirica, andiamo a finire un po' dappertutto. Cioè tu fai un po' il percorso inverso, quindi. Sì, per cui tu ci racconti, qual è la prima... Allora, prima facciamo sentire un contributo di un paio di film che tu hai diretto con grande maestria. Prego. Grazie. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Allora, lo faremo alla vecchia maniera. Abbassa le mani, vuoi ci metti in imbarazzo? Eh beh, il gladiatore era chiaro, e l'altro è Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Di cristallo, sì. Senti, poi ne parliamo, cominciamo il percorso del doppiaggio, però questa frase qui, che è un po' stata la fortuna del film... La fortuna anche dell'interpretazione. Beh, allora, Luca, diciamo, Ward, che come Luca, è andata? Allora, Luca Ward. Luca Ward ha ripetuto questa frase una cosa tipo 35 volte perché non la chiudeva come io chiedevo. E quindi a un certo punto gli ho fatto i disegnini. Ma di so come la volevo. Perché quello che dice Fiamma, per chi ovviamente è un po' distante da questo mondo, chiudere una frase piuttosto che lasciarla aperta ha un significato. Cioè, se uno diceva, avessi detto, facciamo un provino, al mio segnale scatenate l'inferno, no. Questa no. Non è chiusa, scatenate l'inferno. Al mio segnale scatenate l'inferno. Ancora no? Più chiusa, Pino? Al mio segnale scatenate l'inferno. Eccola, vedete. Se mi faccio doppia. Luca, chiama, santa miseria, chiama, questa mi massacra. E voi dovete sapere che al doppiaggio si è soli davanti a un microfono, in una sala buia, col film che scorre davanti a pezzettini, il copione, la cuffia in testa. Se il personaggio mangia, il personaggio fa qualcosa, tu devi mimare anche la mangiata. E normalmente, non so, uno mette la lingua in mezzo ai denti per fare, insomma, che c'ha il boccone in bocca. Con Fiamma Izzo invece mangi le cose vere. Questo per cui ti trovi alla mattina alle 9:15, io stavo doppiando una cosa con lei, dice l'unica cosa che c'era l'assistente era un tramezzino con l'uovo. Adesso alle 9:30 con la frittata ti metti in bocca un panino con l'uovo. Pino non lo voleva fare, ma poi alla fine ha dovuto per forza. Per cui davanti lì c'è questa situazione. Ma il percorso del doppiaggio, perché tu sei una traduttrice, adattatrice, direttrice, doppiatrice, hai doppiato delle cose straordinarie. Qual è il primo momento? Arriva questo film Oltreoceano, oppure allora, dalla Francia, insomma, sì, può arrivare da altre parti. Comunque te lo affidano e a quel punto chiedono di fare i dialoghi italiani. Esatto. Quindi ti danno il film in inglese con un copione. Speriamo che sia il definitivo, perché adesso ormai lavoriamo con i preliminari. Pino, vuoi partire con qualcosa? Beh, io i preliminari li utilizzo non tanto per tradurre magari un copione, magari per altri momenti della mia vita. Ecco, invece... L'ho utilizzato anche calcisticamente, mi è andata malissimo per quanto riguarda la mia squadra nei preliminari. Ma invece, insomma, arriva un copione e a quel punto lo dobbiamo tradurre e poi mettere a sincrono, quindi i movimenti buccali devono essere, insomma, buccali, sì. Non boccali. No, i boccali di birra. Hai ragione. Però come fa a far figura? Siamo sempre in diretta su Radio 24. Quindi. Grazie. E quindi niente. E quindi sì, insomma, si deve avvicinarsi al sincrono, che non è cosa semplice, perché ci sono le labiali, quindi give me some water, dammi un po' d'acqua, non ci sta molto bene. No, perché non c'è il labiale. Se non c'è la labiale su acqua, no? Water invece ha questo movimento, sì. Quindi dammi un bicchiere d'acqua, cerchiamo di metterci, di infilarci qualche labiale, le B, le M e le P. Per cui dalla traduzione c'è l'adattamento. Esatto, ovviamente. E infatti molto spesso, anni e anni fa, che cosa si faceva? Cambiavano le trame dei film, perché se una persona era stata uccisa di Monday, purtroppo diventava, invece che di lunedì, che ci sta molto male, diventava di martedì, e abbiamo cambiato le trame. Siamo su sceneggiatori.it, ecco. Ah, per cui è vero, il Monday e martedì, esatto, ci sta perfetto. Ma c'era anche un altro film, non so se l'ha doppiato tuo padre, che era Grosso guai a Chinatown di John Carpenter, che lui dice chiamami, call me snake, che è chiamami serpente, ma c'è la labiale, per cui certo. Chiamami iena è diventato Kurt, certo, Russell, certo. Però sai, questi cambiamenti possono essere anche giustificati, tante altre volte magari no, ma non capita nei grandi film ormai, non più comunque, cioè prima forse si poteva, ma oggi non più, perché poi ci sono appunto tutti i siti dove ci uccidono, no? Se sbagliamo qualche cosa, o se cambiamo. Tante volte mi hanno scritto delle mail: sto facendo una tesi su questo film che lei ha adattato, ma come mai ha cambiato questo? Vai a spiegare che ecco, non è sempre possibile. Molto spesso noi comunque siamo corretti sia dall'America oggi che dai nostri clienti, no? Da chi commissiona il film qui in Italia. Quindi insomma è normale che ci sia. Con siamo. La penna rossa e la penna blu. Esatto, sì. Esatto. Cioè, per cui adesso si dà alla traduzione, all'adattamento, sì, oggi si dà più importanza alla traduzione o al sync? No, oggi diciamo che il sync è diventato un po' meno importante, perché è troppo importante che il significato vero sia in pratica quello dell'originale, cioè sia rispettato. Cioè, ovviamente non può finire troppo tempo prima o troppo tempo dopo la frase, no, però magari si aggiusta da quel punto di esatto, vista. Esatto, cioè diciamo che è più importante che sia di lunedì l'omicidio piuttosto, sì, di martedì, che cambierebbe tutto, ecco, cioè, perché un effetto domino, esatto, importante. Quindi ecco perché non oggi come oggi, proprio addirittura chi lavora con Netflix, che è questa appunto grandissima, sì, piattaforma che sta nascendo, arrivando, che sta arrivando anche in Italia, deve addirittura mandare i copioni in America e vengono ricontrollati e corretti. E poi soprattutto si doppia tutto insieme adesso una serie. Io ho accettato in questo periodo una serie di Netflix che uscirà, Ray Donovan, e normalmente noi doppiamo, la prima stagione, poi aspetti un attimo. Esatto. Perché ho detto sì, va bene. e loro invece assolutamente 36 puntate tutte in due mesi e mezzo. Esatto. Che mi trovo sommerso di turni. Questa serie. Però è giusto, almeno adesso è il nuovo modo di comunicare anche questo. Assolutamente. Uno sceglie di vedere quella serie e vede, la vede assolutamente tutta. Insomma, una volta adattato, tradotto, adattato il film, poi si passa alla fase successiva, che è quella della scelta, distribuzione delle voci, no? Esatto. Quindi quando abbiamo la fortuna, quasi mai, di poterla decidere noi direttori, facciamo appunto, ci mettiamo lì a studiare su questo attore, chi l'ha doppiato più volte, oppure chi ci vedrei io. Sì, infatti tu, per esempio... Però diciamo che poi è molto complicato, vero? Perché... C'è la scelta americana... Ecco, invece molto molto spesso, sempre più spesso, ci invitano a fare dei provini che scelgono in America. E devo dire, grazie a questo passaggio, ogni tanto ho avuto la fortuna, non voglio dire io, perché la trasmissione sì, la conduco io, assolutamente, ma visto che sono direttamente qua con te, ho lavorato. Per esempio tu mi hai scelto su Muhammad Ali, su Will Smith, che io non avevo mai doppiato, mentre il bravissimo Sandro Cerbo lo... ovviamente lo attraversa, lo accompagna da tanti anni, ma lì c'era un problema di voce, come è stato con te sempre per Denzel Washington, che hai avuto il coraggio di passare su di me per American Gangster, che però che... ecco appunto, però lì sei stato scelto, no, ma voce. Non solo, però sei stato scelto da grandi registi, cioè non è che ho scelto solo io, cioè, ha scelto Scott, Mann, ma... ha scelto Ridley Scott, voglio ma, dire, mi ha chiamato, mi ha detto preferisco oggi te al grande Francesco Pannofino, che io abbraccio e saluto e che avremo credo e spero di averlo presto ospite. Senti, qui ovviamente tu sarai con noi almeno 2-3 blocchi, come si dice in tecnica, per cui... Quindi tipo 2-3 anelli? 2-3 anelli magari, 2 anelli è più rapida, almeno certe volte, poi vi spiegheremo anche l'anello che cos'è. Allora signori, il viaggio intorno alla voce è appena cominciato, mi raccomando, telefonate se volete intervenire all'800-24-0024 oppure arricchiteci con i vostri sms che ovviamente apriranno nuovi link per una disquisizione insieme. Prima ho saputo che diatriba, parlavamo di una dedicata, non si dice diatriba, no, ma si dice diatriba, c'è capito? Si dice diatriba. Ecco, a questo punto, su questa cosa, io saluto un attimo la mia amica Fiamma Izzo e la vostra grande amica Fiamma. Radio 24 e Voice Anatomy è appena cominciata. I miei gusti sono molto singolari. Non capiresti. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Voice Anatomy. C'è una novità importante. Abbiamo una spia sovietica. Vogliamo che la difenda lei. Io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni. Ha assistito molti accusati di essere spie. Questa sarà la prima volta per entrambi. Dovrà fare attenzione. Bentornati a Voice Anatomy, qui il vostro, il nostro Pino Insegna, al mio fianco Fiamma Izzo, di questa straordinaria dinastia di attori e di doppiatori, ma apriremo anche questo link importante tra pochissimo per parlare di cosa significa il doppiaggio, la famiglia nel doppiaggio, non è come la famiglia nel doppiaggio, famiglia. Non è così, anche se tuo papà ha doppiato, ha come diretto, no? Ha diretto il padrino. Il padrino. Io ho avuto la fortuna soltanto di fare un ridoppiaggio, che poi certe volte non c'entra niente, però quando lo chiedono però, oltreoceano, bisogna rifare anche questo. Ma certo. E allora ci arrivano parecchi sms, anche i dislessici ringraziano il doppiaggio, evviva, saluti e buona vita da Antonella. Antonella, volevo dirti che il doppiaggio può aiutare anche i dislessici, perché io ho mia figlia che ha avuto una dislessia leggera, Rossa, che oggi è una doppiatrice molto brava, ha studiato tanto per riuscire a superarla, quindi si può fare. E questo, faremo anche dei percorsi di questo tipo, perché questa trasmissione non è soltanto raccontare tecnicamente il doppiaggio o la recitazione, ma può raccontare proprio nelle fasi, perché le persone magari vedono una cosa, danno per scontato, sì, è bello così, finisce così, vai in sala, parli, arrivederci e grazie. No, non è soltanto questo. Ma abbiamo detto già nelle altre puntate che sarebbe bellissimo avere nelle scuole una scuola di teatro, sì. Non perché uno debba fare l'attore, ma perché uno deve saper comunicare, e la voce è la più la forte, prima, la prima, certo, il primo elemento. La prima cosa comunque che importa, no? Saper mantenere la voce in un certo modo, sì. Dalla voce si può sentire il nervosismo di una persona, il freddo. Sì, puoi studiare, puoi anche rimorchiare meglio, io lo dico anche ai miei, sì, a qualche maschietto, riconosci se quell'appoggiatura di quella ragazza come risposta sia idonea ad un'uscita, oppure devi smettere lì e dire, e arrivederci. Dire arrivederci. Ma anche per l'impostazione vocale, per evitare l'infiammazione delle corde vocali, no? I noduli sulle corde vocali. Guarda, io i dico pulipi. Sempre una cosa, tu lo sai, Pino, quanto è difficile, no? La cosa più difficile di tutte, e cioè respirare prima di parlare. Quante persone parlano in apnea? È vero, ti si stringe. Respirare senza soluzione di continuità, cominciare a parlare. Infatti avevo paura un giorno di un turno dove dovevo gridare tantissimo e uno non sa sempre gridare, sì, la sa impostare eccetera, ma certe volte ti sgrani e basta un urlo, sapete, chi va allo stadio, chi urla un attimo, no? Perde la voce in un attimo, perché le corde vocali si sfibrano. Esatto, e non sono nutrite dall'aria, invece se tu respiri prima di parlare... E poi puoi gridare, poi non lo faccio perché sennò... No, perché, perché dopo parleremo di lirica, perché tu sei stata una grandissima anche nel mondo della lirica. Ma adesso c'è una telefonata che ci piace molto ascoltare. Bene. E vediamo che cosa aprirà Gemma da Milano. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Gemma, benvenuta. Buongiorno, complimenti a tutti. Grazie. E molto bravi. Mi chiedo solo una cosa, sia dalla presentazione sia dalla trasmissione che ascoltavo prima, dove c'era anche Lopez, mi sembra che sia un ambiente, chiaramente un lavoro molto interessante, molto stimolante, ma un po' ridondante come familiarità, cioè figli, nipoti, sorelle, fratelli, attori già noti. Qual è lo spazio invece per una voce nuova, un doppiatore nuovo, un giovane che abbia magari delle caratteristiche, insomma... Benissimo, è chiarissimo Gemma, volevamo aprire questo discorso a prescindere dal tuo intervento, perché quindi ci piaceva la ringraziamo molto. La ringraziamo davvero, perché questo da là ha un'apertura importante, ve lo dico io che vengo da una famiglia, non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'artri, per cui ho cominciato questo mestiere serenamente, ho avuto il mio spazio senza essere la famiglia, ma c'è chi può rispondere a questa storia che porterà fine al doppiaggio di oggi. Fiamma. Allora, ha ragione la signora, ma c'è un motivo. Il doppiaggio è una delle poche arti o artigianato nelle quali non si può barare, perché non si può essere raccomandati nel doppiaggio. Sì, forse puoi fare una battuta un giorno, ma non puoi assolutamente fare un film perché sei raccomandato, perché poi ti viene protestato e non andrà mai in onda o non andrà mai al cinema. Allora, le famiglie è vero che ci sono, ma perché sin da piccoli i nostri figli vengono educati a parlare in italiano perfetto, a non parlare in romanesco ad esempio, dopodiché gli viene insegnato perfino a declamare le poesie in italiano perfetto e recitandole. Però ecco, Pino, tu lo sai molto bene. Sì, sì, no, ma infatti io sottolineo questa cosa. Ovviamente le famiglie non è soltanto un fattore di scorciatoie, ereditarietà, no? Ma perché uno respira quell'aria, ovviamente, dice il figlio di Gassman fa l'attore. È normale. Da quando è piccolo. Poi che... sta a lui dimostrare, esatto, se diventerà più o meno forte del papà. Ed è anche un peso certe volte tutto questo. Ma nel doppiaggio, sì, soprattutto poi se non sei un attore non puoi essere un doppiatore. Ma un bambino che respira quell'aria già da piccolo, istintivamente, di default, comincia a recitare. Ed e è siccome più facile. Il doppiaggio è una tecnica, perché sì, prima viene il sync e poi tutto il resto. Quindi diciamo che se tu sei un grandissimo attore ma non riesci a respirare con un altro attore che già ha fatto, esatto, la propria interpretazione, ti è impossibile riuscire ad attaccarti, a entrare in quegli occhi. Quindi è prima di tutto una tecnica, e la tecnica si impara molto spesso da bambini. Per chi è grande è più difficile. Assolutamente, tu hai davanti un leggio con un copione che non hai visto prima. Mai. Davanti a te scorrono delle spezzoni di film che si chiamano anelli, perché torna finché non l'hai fatto e non hai mai visto, una cuffia con cui sentire l'originale, e tu mentre leggi devi recitare di fronte a quel microfono senza muoverti, anche se quella persona sta correndo, esatto, sta amando, devi... sta combattendo. Esattamente, quindi c'è questa fisicità che è un po' imprigionata, no? Invece la voce è frutto proprio di quello che che del movimento, io lo dico sempre, cioè se io adesso sono seduta ho una voce, in piedi ne avrei un'altra, sdraiata un'altra ancora, perché si muove la laringe in un altro modo, quindi la voce cambia. Ma ecco, io torno su questo che è importantissimo, la raccomandazione non nel c'è. Doppiaggio purtroppo o c'è. Per fortuna non esiste, per fortuna. E noi come famiglia Izzo ad esempio, che sempre ci dicono ah perché voi la famiglia, ma noi facciamo una fatica terribile, ma soprattutto perché è come se uno dice alla famiglia che c'ha una catena di negozi di tessuti, beh quello facciamo da sempre, certo, perché ecco. Avete tutti voi quei negozi di... perché noi facciamo tessuti, esatto. Voi avete lavorato con la voce da sempre, cioè siete a Benetton cresciuti. Non glielo chiedono come sì, mai il tuo figlio lavora perché? Coi maglioni, ecco, perché è da quando è piccolo che esatto. Esamina i tessuti più pregiati, come esatto. Si colorano eccetera, e così anche noi, però non è più come prima, adesso è molto più larga, no, c'è una possibilità sono... per i giovani doppiatori, come diceva la signora Gemma, c'è molta più possibilità, sì, sta a voi, sta a noi, come ho fatto io, bussare, assistere, chiedere, studiare e tentare, e poi chiedere magari il provino, se il turno finisce prima, adesso ci racconterà bene come avviene tutto quanto, uno fa un provino e poi viene messo magari sì, ma... in lista per essere chiamato sì. Per un piccolo ruolo. Ma tante volte, insomma, io ho visto che sono stati chiamati dei ragazzi, io non faccio i provini, Pino. No, tu no. Prendi me direttamente. No. C'è un'altra telefonata, stai muovendo un sacco. Grazie. Allora, Davide da Roma, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Davide. Davide. Sì, saluto anche l'ospite. Grazie. La mia domanda era molto semplice, volevo sapere se c'era un'età oltre la quale era inutile anche tentare, ecco. Senti che bella voce profonda. Molto bella, guarda Davide, tu hai una bellissima voce, è un po' di, diciamo, di si sente un po' Roma, però ecco, diciamo, è molto molto bella la voce. Ma ti ripeto, siccome è una tecnica, tutto sta all'elasticità della persona, perché come diceva Pino, andare a sync non è uno scherzo, no. E non è solo il sync, è proprio entrare in quegli occhi, respirare con quell'attore che è difficile. Eh sì. Infatti non tutti i grandi attori sono grandi doppiatori o viceversa. Noi abbiamo due grandissimi esempi, sono Giancarlo Giannini sul grande Al Pacino, sì, e quant'altro, e Gigi Proietti, che ogni tanto si cimenta. Certo. Forse non tutti sanno, ma il primo Rocky Balboa, quello che urlava Adriana ti amo, no? Resta in città, tartaruga, era Gigi Proietti. Il 2, il 3, il 4, il 5, poi Amendola e poi Massimo Corvo, da quando il grande Amendola ci ha ovviamente salutato. Io ti ringrazio Davide, in bocca al lupo, lascia un messaggio con la tua bella voce alla nostra segreteria telefonica, scusa, al 828 12 12, e magari sarai chiamato anche tu ospite. Quanti qui. Anni hai? 46. Va bene, ce n'hai tre più di me. Non è vero. Va bene Davide, ti ringrazio. Ciao, ma sei un attore Davide? Sei attore no, Davide? No, no, assolutamente. Ma vedi, ecco, è questa la cosa poi, che molti arrivano a salutarmi nelle sale di doppiaggio dicendomi ho una bellissima voce, me lo dicono tutti. Sì, ma prima bisogna essere attori però, esatto. Attenzione. Va bene, grazie Davide. E allora rimani qui con noi Fiamma, pronti per andare avanti in questo percorso con la voce. Mi raccomando, restate qui, Radio 24, Voice Anatomy. Io credo che da qualche parte ci sia un cattivo col potenziale per raggiungere la grandezza. E potrebbe essere uno tra voi. Wow. Allora, come vogliamo fare? Voice Anatomy. Eccoci di ritorno in diretta da Radio 24 con Voice Anatomy. Al mio fianco sempre la straordinaria Fiamma Izzo. Abbiamo raccontato un po' che cosa significa essere nel doppiaggio, le famiglie che compongono il doppiaggio, il percorso, la mancanza, ringraziando il cielo, di raccomandazioni all'interno del mondo del doppiaggio, di essere attori o non attori, eccetera, eccetera. Ma abbiamo un'altra telefonata, oggi siamo pieni di telefonate, bello. Poi noi scegliamo quelle che magari rappresentano di più il momento. C'hanno già 10 telefonate su che cosa significa la famiglia nel doppiaggio, noi abbiamo scelto una telefonata e ringraziamo ovviamente anche gli altri. Angelo da Carbonia in Sardegna. Sì, buongiorno. Buongiorno, anche se Angelo. Sono milanese, diciamo. Si sente? Aio. Allora, no, io volevo, approfittando anche della signora Izzo, che siccome io ho fatto la vita cantando come corista con una bella estensione di voce, poi sono stato operato alla tiroide e sono rimasto monocorde, non riesco più a fare una nota sopra l'altra. Mamma un mia. Consiglio per me, perché mi piacerebbe cantare ancora, anche se ho una certa età. Ma com'è possibile questo? Cioè, che vuol dire? Non riesci a emettere la voce? No, no, non riesco più a fare a io avevo non so due, era un tenore leggero con diverse ottave, insomma due tre ottave, arrivavo in alto e lei che è stata una bravissima cantante, grazie. Non riesco più, non ho la passione, conosco la musica, potrei anche dirigere un coro qui nella zona, ma non riesco più a emettere la voce. Angelo, quanti anni hai? 80. Ma pensa, non significa niente. Io a 56 non riesco a emettere. Perché la passione del canto mi è rimasta. Che è successo, Fiamma? Lo so, tu non sei un medico, ma conosci perfettamente la tecnica. Perché la sua voce è pulita. La sua voce è pulita, quindi non capisco. Sì, ma è monocorde, non riesco, se faccio. Faccia un po' sentire. Stringe la gola. Provi con la I. Eccoci, basta, piano piano. Lo vede che con la I ce la fa. Una tonalità molto bassa, io avevo la voce squillante. Ma è normale che con l'età la voce si abbassi. Guardi Domingo, quindi. Ha fatto il baritono, no? Quindi si perdono un po' gli acuti. È normale. Sì. Però secondo me con l'esercizio lei. Potrei fare qualche, non so, vocalizzi. Certo, ne facciamo un altro di vocalizzo, Fiamma. Ho cantato in diversi cori alpini, cori polifonici. Secondo me con l'esercizio, facendo appunto anche. Ma Pino, tu puoi dire benissimo la sirena. La sirena. Ma è difficile, lei mi ha insegnato un giorno quando stavamo cominciando a doppiare un film difficile, difficile vocalmente, perché era Wolverine, quello degli X-Men, e lui parlava, dice riscaldiamo, vieni un'oretta prima Pino, mi ha preso un colpo e ha cominciato a insegnarmi il voice stretching, cioè lo stretching delle corde vocali. Allora, facendolo è molto semplice, anche sotto la doccia si può fare. Bisogna pensare di dire lingua, e su quella N cominciare facendo la sirena. Allora, per esempio, io oggi ho la voce molto bassa, sono afona. Quindi, diciamo che ci provo, è questo è uno stretching delle corde vocali. Però devi sapere dove metterla. È la lin. Bravo Pino, ancora lin. Adesso arriverà davvero un'ambulanza che ci porta via. Fallo com'è, Angelo, provaci un attimo questo esercizio. Bravo, vai lì dove non c'è la voce, vai e continua fai. A spingere. Piano. No, Angelo, tu stai cercando di farlo con la bocca aperta, la bocca va chiusa. E i vocalizzi sta facendo. Chiudi la bocca. No, non ce la faccio. Perché tu stai vocalizzando, stai cercando le ottave superiori, invece devi rimanere sulla N, chiudere la bocca, e spingerla su. Bravo. Eccolo qua, lo senti che tu stai diventando. Tu sei baritono ormai. Penso di mettetelo sì. In testa, Angelo. Sei il baritono di una donna con cui stai da tanti anni, insomma. Sei un baritono. Sei un baritono ormai. Andiamo su Lacci darem la mano, capito? E com'è il baritono? Lacci darem la mano. Mi dirai di sì. Ma io la devo fare con altra voce, ovviamente. No, la tua. Lacci darem la mano. Mi dirai di sì, vedi non è lontano. Partiamo, beh mio, da qui. Vai Angelo, vai. Ci daremo la mano, tu mi dirai di sì. Ma lo vedi che ce la fai benissimo. Vorrei e non vorrei. Questa sono io, questa è la donna. No, Angelo. E non vorrei. vuole cantare tutto. Leva, adesso leva dalla tavola il cannonau e riprendiamo insieme. No, no, sono astemio io, proprio niente, no, di niente. Per chi si fosse messo in ascolto, bravo, soltanto adesso, non è in diretta da un'osteria dove ormai ubriachi Pino Insegno, Fiamma Izzo e Angelo da Carbonia stanno vocalizzando intorno a un bicchiere di vino. E sono gli esercizi, ecco, sono un po' di tutorial che questa trasmissione vuole fare per fare questo viaggio. Ecco, ieri ho avuto un complimento, non mi piace parlare di complimenti, ma però quando fai radio, belli, quando fai delle cose più di nicchia, è bello vedere una persona che attenta al... Mi ha detto, bellissimo questo viaggio che mi state facendo fare su un mondo sconosciuto, come quello più che dovrebbe essere più conosciuto al mondo, che è quello della voce. E mi ha fatto molto piacere, insomma, questa cosa. Va bene, Angelo, canteremo insieme un altro momento e noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie, Angelo. Però, Angelo, ce la puoi fare. Sì, secondo me sì, ha cambiato esattamente. Anch'io, se sento un film di 20 anni fa, sembro mio fratello. Ma certo. Adesso ormai i nonni neri devo doppiare, come uno c'ha un colore scuro, comincio io. E lui ha aperto un link importante che noi volevamo percorrere insieme a te, ovviamente oltre a quello del doppiaggio che affronteremo domenica dopo domenica, c'è quello del mondo della lirica, perché Fiamma Izzo, prima di approdare al doppiaggio, nonostante già la famiglia lo facesse da tanto, ma nessuno di voi ha mai cantato nel mondo della lirica, assolutamente. Per cui lì proprio, non si poteva, ma neanche sei avere stata il minimo una grandissima cantante lirica, e poi vi faremo sentire con chi ha cantato, ma ce lo dirà anche lei e da chi è stata diretta soprattutto. Poi ha scelto di continuare un'altra vita, la famiglia. Di tornare dalle mie figlie, dalle ecco, figlie, perché cominciavano la scuola, e quindi però è stata una vita meravigliosa, ha avuto grandissime soddisfazioni. E adesso cominciamo subito a fare sentire un piccolo contributo tratto dalla Bohème, che è gelida manina, se la lasci riscaldare. Prego. Questa era Fiamma Izzo, sì, ma chi era il tuo compagno d'avventura in questa opera lirica? Il protagonista maschile? Lucianone. Pavarotti. Luciano Pavarotti. Così. Eravamo in Cina perché certo, siamo stati la prima opera italiana a cantare in Cina. Quindi siamo partiti nel 1986 e non c'era neanche il volo diretto, invece l'hanno creato per noi, e a Pechino abbiamo dato queste recite che sono andate poi in Mondovisione. Noi abbiamo inventato tutto questo popolo straordinario. Il bel canto è nostro, la definizione della musica è nostra, andante, eccetera, eccetera. Come no? E voi avete aperto questa cosa. Quanti anni avevi? No, non lo voglio sapere. 30 anni fa. Avevo 19 anni. 19 Quindi, anni e già a 19 anni, a 18 anni ho debuttato. Ma non è presto? A 19, nella lirica? Sì, è presto nella lirica. È come però nel calcio, insomma. Io ho cominciato a 16 anni e sono andata al conservatorio a 16 anni. Quindi... Ma già dotata, ovviamente. Cantavo. Lì viene la famiglia, vedi? Sì. Perché c'era Antonello Venditti. Ah, c'era in famiglia. Quel esatto, periodo era tuo cognato. Esatto. Quindi a 14 anni ho cominciato a cantare con i coretti, con lui, e poi dopo la grande passione, ho cominciato a studiare e poi a 18 anni ho debuttato. È come e tua figlia che sta negli Stati Uniti, perché è grandissima, dotata, straordinaria di composizione. Lei ha questa cosa che io non ho mai composto, neanche un jingle per una, niente proprio, nemmeno una canzoncina per bambini, invece lei compone, quindi lei al Berklee College of Music, sono molto fiera. E che cosa fa tu hai un soprano, ovviamente, sì, che lavoro fa sulla propria voce? Quanto si studia durante il giorno? Cioè, l'impostazione? Si studia tantissimo, si studia intorno alle 8 ore al giorno, perché poi ci sono le prove e per resistere e non devi perdere la voce, come nessuno esatto, di noi deve fare, noi lavoriamo esatto, in doppiaggio, teatro, eccetera, non puoi perdere esattamente la voce. Anche perché poi si canta, no? E nelle tre ore che dura una manifestazione, dura un'opera, sì, lo sforzo è enorme, perché è anche di emozione, è di diventare quel personaggio, quindi soffrire con lui, e poi di grande, anche di grandi cioè c'è una, io avevo una paura da morire quando cominciavo. Qualsiasi cosa anche. Poi dopo invece mi divertivo, ma mi divertivo tantissimo. Cioè... È il segreto del successo di ogni mestiere, anche un chirurgo deve divertirsi quando opera a cuore aperto. Sì. Significa ridere mentre taglia no, la orta. Certo. Significa amare quello che si sì. sta facendo, e tu l'hai fatto. Però insomma. Ecco, con grandissimo amore, io ricordo, io ho avuto la fortuna di essere l'ultimo soprano di Karajan e ho lavorato con lui per 4 anni. Quella è una cosa che avremmo poi sentito. E diciamo che sono stata presa per caso da lui, perché io sono andata a Salisburgo per vedere un'opera che lui stava dirigendo, che era la Carmen, e ho chiesto Carmen, e non ho Carmen, vabbè, perché è francese, è come diatriba, no? Ma comunque insomma ho chiesto dei biglietti e il mio agente, che io avevo 18 anni, quindi avevo appena cantato, avevo fatto 5 recite nella mia vita e avevo però già un agente austriaco, e lui mi ha detto: ma guarda, vai dalla signora Salzburger, certo, a Salisburgo, certo, ecco, che è la segretaria di Karajan, perché io gli ho chiesto 2 biglietti. A quel punto lei mi ha detto: domani mattina alle 9 lei può fare un'audizione. Ora devi sapere ma che si per è una sposata cantante per mi... puro caso l'audizione, sapevi che c'era la possibilità? Assolutamente no. Io sono andata con mia sorella Giuppi a vedere la Carmen e tra l'altro, appunto, sai, un maestro d'orchestra che ti dice del genere, che ti dice di fare un'audizione alle 9 del mattino. Per un cantante è duro, perché la mattina la voce... Esatto, di solito si fa alle 14 l'audizione. Quando sei già calda come voce. Esatto, invece io ho detto va bene se c'ho un pianista alle 6 del mattino. Se io ho un pianista alle 6 del mattino, io alle 9... sono pronta per l'audizione. Richiesta da professionista, non da pazza. Esatto. Era una richiesta da vera professionista. Esatto. Cioè, questa infatti è proprio detto, brava. Sì, sì, c'è. E quindi io alle 6 del mattino sono andata, ho cominciato. Dopodiché sono andata alle 9 del mattino con Karajan e ho chiesto, lui mi ha detto: ma che cosa vuole cantare? Che cosa vuole cantare? Signore? In italiano? In italiano, assolutamente. Ma io vorrei cantare Follia Follia. Ma è una pazza! Così. Perché la Traviata è difficilissima. Come suona questo pezzo delle follie? Questo è follie, follie, delirio vano è questo. È la famosa, poi sempre libero. Ah, questo giro. È Frankenstein Junior, sì, per chi certo, ama il cinema, beh, certo. Quando lei non fa è, l'amore con non le è grandi. La Traviata di Verdi, no, è Frankenstein. Frankenstein Junior non è la Traviata di Verdi. Esatto, certo. Quando fa l'amore succede quello certo. che succede. Ma, sempre libera, certo. E tu hai esordito e lui ti ha preso. E lui mi ha fatto il contratto in quel momento. Ma che bella cosa! Come se io chiedessi 2 biglietti a Dassinoff, a Robert De Niro, c'è 2 biglietti per il film tuo di stasera? Quello dice: fai un provino. Fai un provino. Fai un provino con me stasera per fare una cosa. Io ho detto: sì, se mi porti il comione alle 5:15. E lì mi ha chiuso la porta in faccia. No, non ha funzionato. Non ha funzionato sta cosa dell'orario. Per cui tu hai esordito alla grande. Quanti anni sei stato? Bisogna avere, scusa, un'altra domanda tecnica. Bisogna avere una conformazione particolare della gola per essere. O delle corde vocali già predisposte, oppure con l'esercizio è l'esercizio fare. Assolutamente non serve una dote no. Cioè, di nascita per sì. carità, è logico che sì, per forza devi avere una base, però poi è tutto frutto di studio. Io sono ho una volontà di ferro, quindi ho cominciato a studiare a 14 anni, studiavo 8 ore al giorno, non è che studiassi sì, un'oretta così come per... storia, geografia, scienze, ecco, questo no. è studio 8 ore sì sì 8 ore, e quindi diciamo che ho fatto una tutto di fretta, tutto di corsa io. Infatti pensavo morirò giovane, perché dicevo non è possibile. E invece non ha funzionato così. No, perché no, ormai siamo boom, su... si sente boom, boom. Lo so, ma non sono più giovane, quindi non è più ma il che caso. C'hai neanche 50 anni, ma sì, smettila. Sì, no, ce li. Mi resisti un altro blocco qui con me? Non come no, non volentieri, sì. Non mi morì giovane adesso, no, mi no, serve no, ancora un altro blocco. Dopo questo blocco ti accompagno io a casa, casomai. Va bene, signori, un saluto leggerissimo, ci rivediamo tra poco, vi aspettiamo qui a Radio 24, Voice Anatomy. Alle 9, Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Grey's Anatomy. Capito? Abbiamo l'originale registrato e l'originale in studio Fiamma Izzo. Stiamo percorrendo anche il mondo della lirica. Questo è il Don Carlos. No, sì. Perché me l'hanno detto, ovviamente non faccio il figo così tanto di capire l'opera lirica. All'inizio hanno detto dalla regia il Don Carlo. Io ho detto sì, Don Carlo è il ristorante qua sotto. No, non è vero, è perché Don Carlos, però si può chiamare anche Don Carlo, perché Don Carlos sarebbe in francese, eh? Scritto certo. In francese. Esatto. Poi c'è la, questo invece prima è era la Carmen con la quale siamo salutati, sempre Fiamma Izzo, ma con Carreras, diretta sì. Da Herbert von Karajan. Mi dicevi durante la pubblicità che ti ha fatto studiare una frase per... Questa frase qua, proprio quella che viene dopo le prime due dell'apertura, Sancor si piange in cielo, piangi per me. E io l'ho studiata per 28 ore, per 4 mesi. Ecco, così si faceva prima, anche il doppiaggio ti dava più tempo. Come no? Papà e... Era così. Si facevano anche 100 volte le battute. Sì, è vero, adesso molto molto meno. Bene, parliamo, siamo entrati nel mondo dei provini, perché dopo questo momento poi ci devi salutare, saremo rapidi, perché abbiamo scelto anche oggi, c'è una persona in diretta da Bologna, che è Veronica Sabatini, con la quale parleremo tra poco, però lei parla di provini, allora me lo vuole fare a me, mo Fiamma il provino. Volevo far sentire come studiamo, però verrò un'altra volta che lo prepariamo. Va bene, no, proviamo a fare una frase, perché poi... Ovviamente non siamo preparati. Ma non modo. Devi essere preparato. No, lui vuole essere preparato, no. Tu vuole fare il bravo, capisci? Ma no, perché non si vedono le immagini. Ho capito, si sente, ma prima si l'originale. Potrebbe sentire. Ma come si fa a farlo sentire l'originale? Avviciniamo al microfono. Questo è Grey's Anatomy, perché tua sorella è direttrice di Grey's sì, Anatomy, esatto. Non solo. Che e io faccio i dialoghi, scrivo i dialoghi di Grey's Anatomy di ogni puntata. Io non faccio niente. Sicuro. E tu non fai niente. Sì, allora. Questo è l'inizio di questa scena. Questo è lui. Meredith. I don't want to fight anymore. Mm. Oh, I don't either. Ecco, stanno in pratica. Al telefono. Stanno al telefono. Allora, vogliamo vedere come la fa Pino questa. Allora, questo è il passaggio. Adesso questo è il passaggio. No, questo è il passaggio sonoro. Sonoro. Quindi vai. Oh, no, sto per partire. No, Pino, questa era già la seconda battuta. Ecco, Se è andata troppo avanti. Capite, Perché non può fare brutta figura. Io devo curare questa trasmissione altri 6 mesi. Vai. Sei arrivato? No, sto per partire. Meredith. Io non voglio litigare mai più. Vabbè, neanche io. Vabbè, insomma, dite? Ho capito, ma guarda, non devo far provino, ma guarda la miseria. Poi c'è cioè, in circolo un film che hai fatto, che è doppiato adesso tu da poco, che è l'ultimo di Spielberg, che abbiamo sentito no, un questo non è ancora uscito. Questo no, cioè hai cominciato... Sì, ho cominciato a lavorarci e quello era il trailer. Città di carta, cioè, che è stato un bellissimo successo. Invece i Minions non ha funzionato quasi per niente. I Minions, devo dire, ecco. Anche quello, vabbè, buongiorno, continueremo a lavorare insieme. A proposito di provini, fra le tante telefonate nella nostra voice box c'è stata quella che ci ha convinto un po' di più, di Veronica Sabatini da Bologna. Pronto, sei? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Pino. Quanti anni hai, Veronica? 35. Com'è? Ti sei avvicinata così laicamente al mondo della recitazione oppure già fai questo per vivere? Ma in realtà diciamo che ho delle piccole esperienze radiofoniche, ho fatto la speaker per diversi anni in alcune emittenti locali e sono sempre stata affascinata dal mondo della radio, ma soprattutto dal mondo della voce. Bene. Perché la voce è proprio, erano anche gli anni diciamo 90-2000, erano quelli che ti permettevano di innamorarti più della voce che delle facce. La stessa cosa. Quindi... che ha detto mia moglie, sì. Più o meno. No. E ho sempre amato proprio la radio da tempi immemori e mi sarebbe anche piaciuto fare teatro, purtroppo non l'ho mai fatto, però diciamo che ho provato a mandarvi questo testo che ho letto così per gioco, ecco. Bene, che cosa, qui intanto leggo alcuni sms perché è giusto noi diciamo i numeri. Allora, Pino, grazie per Fiamma, donna, ogni tanto ti ascoltiamo, eccetera eccetera. Noi ci dispiace molto del tuo abbandono lirico. Brava, grazie, viva gli Izzo. Ma che bello. Viva Pino Insegno, vabbè, questo che manca bello, soltanto. Grazie, ma io ho dovuto seguire le mie figlie. Io stimo le sorelle Izzo, loro ci incrociamo spesso, eccetera, sono molto professionali, vere e proprie macchine da guerra, come si dice in gergo tecnico. Pino, grazie per Fiamma, per questa bellissima emozione. Ciao Pino, volevo rivolgere a Fiamma Izzo queste domande. Corsi di canto per negati possono avere un'influenza positiva su chi vuole allenare la voce? Assolutamente sì. Anche se si rimane stonati, ma nessuno, ma è, no, stonato. Nessuno sono è stonato, sono diseducati, esatto, nel canto. Esatto. Io mi sono scontrato con l'altro anno con Tale e Quale Show e non pensavo, e invece con dei bravi coach si può cantare, riesce anche a cambiare, sì, voce, sì. Per cui anche c'è la possibilità, lo dico anche, ripeto, mia moglie due volte, che non potete capire nostro figlio come piange mentre lei canta. Ma a parte questo, allora, che cosa hai preparato, carissima Veronica? Ho preparato un altro monologo, sempre dallo stesso film da cui ho letto il monologo che vi avevo letto. Mandato in segreteria. È tratto, esatto, da, per i nostri ascoltatori? Tratto dal The Million Dollar Hotel di Wim Wenders. Niente, una cosetta. È bellissimo, è uno dei miei film preferiti. Chi l'ha diretto quel film? Non lo sappiamo. Wim Wenders e Bono ha collaborato anche, soprattutto con la colonna sonora. Certo. Sì, sì, no, volevo sapere chi l'aveva doppiato in Italia. Adesso perché lo cerchiamo adesso si Fiamma. Ah, ok. Sì, abbiamo il nostro sito che, certo, che è quello di Antonio Genna. Antonio Genna, lo facciamo, diciamo, con grande piacere, perché sì, lui non è che prende soldi da noi, ma è il nostro biografo di tutti. Veramente. Tu metti il cognome di un doppiatore o il film e attacchi Genna, già si googolizza su di lui e vedi la pagina proprio dedicata a noi doppiatori e attori con tanto di curriculum. È vero. Allora, grazie, anzi, Antonio. Vuoi una musica? Perché no, volentieri. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Niente, ho detto una cosa, perché oggi sai, abbiamo cambiato, ce l'abbiamo, perché abbiamo cambiato tecnico del suono, da Alessandro passiamo a Valerio, con la barba dall'altra parte, che sta ridendo, e ha trovato la musica. Va bene, vai. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo, o del mare, o di qualsiasi altro mistero. È l'occhio col quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Ah, è finita. Ah, finita. Ah, scusa, no, pensavo continuasse e dovessi fermarti io. Era un testo breve. Che consiglio puoi dargli per farglielo rifare magari in un altro modo, Fiamma? Ma allora, ti vorrei un pochino più, meno speaker, ti vorrei un po' più vissuta. Un po' più vissuta. Sì, cioè vorrei questa, vorrei che tu la vivessi, che la sentissi veramente, che ci respirassi dentro. Vai. Quindi riprovo? Sì, vai. L'amore non potrà mai essere descritto. L'amore alla non maniera potrà del mai cielo, essere descritto alla maniera del cielo. Più, o del mare. Più basso. O di qualsiasi altro mistero. Meno voce, meno voce. Di nuovo, ripeti dall'inizio. Ok. L'amore. Voce. L'amore. Non meno potrà voce, mai. Meno voce. L'amore. L'amore non, brava, potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare. O di, dopo del cielo, all'amore del, alla maniera del cielo o del mare. Prenditi il tuo tempo, visto che non hai un sync da seguire. Certo. Dai. L'amore. Meno voce, non potrà meno mai voce. Pensa a questa voce che deve accarezzare. L'amore. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di qualsiasi altro mistero. È l'occhio col quale vediamo. È l'occhio col quale vediamo. È il trasgressore nel santo. Eccoti. È la luce all'interno del colore. Chiamate Veronica Sabatini 800 94. Brava Veronica. Grazie Veronica. Grazie. Un grazie. Abbraccio, un abbraccio, grazie a te. Posso chiedere un piacere? Sì, corri che dobbiamo andare in pubblicità. Mi saluti con un ciao piccola peste, come dicevi. Dio, ci sono stato su Django, ci sono stato mezza giornata, perché arrivavo e facevo ciao piccola peste. Dice, non sei uno speaker. Ciao piccola peste. No, e non sei manco bene, uno che ta stai a... E per cui sono stato ciao piccola peste. Non lo so come è venuto, ce ne sono tanti modi anche qui e bella, ci sono stato un'ora. Bella. Un'ora vera. Ciao piccola peste! E allora anche ciao piccola peste, grazie, lo devo dire a fiamma, ma tornerà, perché come vedete si apre una porta e poi si naviga in dei mondi fantastici. Volentieri, quando fiamma volete. Izzo, ciao, io la adoro come adoro tutta la famiglia Izzo. Non c'è lobby, non c'è mafia, c'è solo grande amore per una professione. Grande lavoro, grande, si fatica tanto per ottenere tanto, qualcosa tanto. Perché per avere un film o una serie noi veramente, ma soprattutto tanto. Lei dirige bene, ma non sapete come cucina. A tra poco con Boys Anatomy. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. Voice Anatomy. Bentornati, signore e signori, ragazzi, fanciulli, chiunque voglia affrontare con me ogni domenica e con i nostri ospiti questo bel viaggio intorno alla voce in tutte le sue declinazioni, come state imparando ad ascoltarci. Vi ricordo i nostri numeri perché è importante comunicare con voi per prendere poi le strade che ci accompagneranno, anche perché prima avete visto come siamo entrati nel mondo della lirica grazie al nostro amico da Carboni, al nostro amico ottantenne straordinario ma giovanissimo nello spirito. I nostri numeri sono, per ovviamente sono numeri verdi, per cui tranquilli, non si spende. Per comunicare con noi in diretta 800 24 00 24, il numero per gli sms 349 238 6666, e vi ricordo le altre due cose molto importanti per partecipare, come ha fatto prima la nostra amica da Bologna, per partecipare ai nostri, al nostro talent, fra virgolette, sulla recitazione, sulla voce. Dovete essere assolutamente laici del mestiere, o magari qualcuno che sta appena cominciando può mandare la sua interpretazione, una sua lettura, una sua poesia, una poesia di altri, alla nostra segreteria telefonica, che vado a leggervi, eccolo qui, è 800 28 12 12. Poi c'è la voce guida, la mia, che vi accompagnerà e vi dirà cosa dovete fare. E poi una cosa che mi interessa molto e mi piace molto, e vorrei che qualcuno di voi ci mandasse la sua storia o una storia che ha scritto, eccetera, che potrebbe diventare un bellissimo film raccontato dalle voci più affascinanti del panorama artistico italiano. Poi ovviamente i nostri social non ce li facciamo mancare, su Facebook Voice Anatomy Radio 24 e Twitter con @ Voice Anatomy. Allora, voi avete ormai quasi imparato a conoscere i percorsi della nostra trasmissione. Adesso abbiamo un personaggio molto molto molto affascinante, perché entriamo come l'altra volta nella sociolinguistica, oggi andiamo su qualcosa di diverso ma sempre inerente ovviamente alla voce. Allora, dopo questo bellissimo percorso che abbiamo fatto sulle tecniche vocali, come dicevo, voglio portarvi proprio in un altro mondo, sempre della voce ovviamente, ma è fatto di idee, di storie, di aneddoti e piccole rivoluzioni che hanno cambiato proprio il nostro modo di percepire la distanza tra ciò che è vero e ciò che è falso. E tutto questo grazie alla voce, pensate. Ad accompagnarci in questo viaggio c'è il professor Enrico Menduni, che voglio raccontarvi che è nato a Firenze nel 48, è un saggista e giornalista italiano che studia in particolare proprio la radio, la televisione, internet e i linguaggi multimediali. Pensate, è professore ordinario di cinema, fotografia, televisione al DAMS dell'Università Roma 3, dove insegna culture e formati della televisione e della radio, storia e critica della fotografia, media digitali. Basta? Basta, pietà. Enrico, è giusto la cosa, sai, bene o male. Enrico, buongiorno, buon pomeriggio. No, un uomo qualunque, sì, uno ma... di noi, sì, uno di voi, di tutti, quello sicuro, Enrico. Però se dicevo adesso c'è uno di noi che ci racconterà un po' sull'importanza della voce vera e falsa, dice perché uno di noi devo starla a sentire, e cambiavano programma. Invece, quando uno racconta in maniera come me, poi io sono veramente, mi pongo in questa trasmissione un po' come Dante, no? Sta lì che Virgilio lo accompagna e lui sviene ogni tanto per lo stupore. Io faccio la stessa cosa, nonostante faccia questo mestiere, grazie ai miei autori, che finalmente posso dire questa parola magica, perché in anni di televisione io non ho mai trovati, se non ho mai potuto dire, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, c'è qui il Filippo Cellini, Alessia Navarro, Damiano, non vi dico il cognome perché non è radiofonico, per cui è bellissimo fare questi percorsi. E allora con te Enrico Menduni, posso chiamarti Enrico Menduni? Sì. È il tuo nome. Anche grande puffo. Anche no, Enrico. Allora, vorremmo parlare proprio con te innanzitutto del tipo di relazione che esiste tra la voce e queste tipologie di linguaggi multimediali di cui lei si occupa. Dicci. Ma dunque, ci sono due tipi di voce. La voce sola e la voce audiovisiva. Sono due voci completamente diverse. Ma tu sei nato a Firenze? Sì. Sembra una calata leggermente... Sembra una calata leggermente partenopea, a sentire il suono della voce. Ma dopo il secondo bicchiere di vino e dopo aver varcato il confine ritorno quello che era. Ah, diciamo, perfetto, un toscano quasi verace. Vengo proprio, va bene. Vai, allora, scusami se ti ho interrotto. Comunque, insomma, ci sono due voci. Il Novecento ci ha offerto gli strumenti tecnologici per riprodurre entrambe. Sì. La voce che accompagna l'immagine ha con lei una dialettica non sempre fortunata, e la voce sola, di cui sono soprattutto i dischi e la loro evoluzione e la radio i detentori. La radio in particolare, che a differenza dei dischi e di tutto quello che è venuto dopo, fino all'iPod, l'iPad, eccetera, la radio è contemporanea agli eventi che racconta. Cioè, mentre io sento un disco, se scoppia la guerra atomica non lo saprò mai. Se invece sento la radio lo saprò, e qualche volta lo saprò anche se la guerra atomica non è scoppiata, perché qui la dialettica vero e falso, attendibile e inattendibile, segue dei percorsi molto particolari. La voce sola è una grande accompagnatrice, perché ti permette di fare qualunque cosa, di guidare una macchina, di leggere, di scrivere, di passeggiare. Mentre invece la voce audiovisiva e l'immagine richiedono un'attenzione che è incompatibile con buona parte delle attività umane, comprese le più divertenti. Senti, ma Enrico, come si fa a capire se è vero o falso? È difficile capirlo. La voce è una voce performativa, è una voce che ti racconta una storia, e questa storia, come tutte le storie, può essere vera, falsa, verosimile, ecco, l'importante è che sia abbastanza verosimile, oppure che ti chieda una sospensione dell'incredulità, esattamente come noi vediamo, non so, i cartoni animati, oppure storie di marziani o di cose che sembrano incredibili, però ci fanno lo stesso emozionare, perché abbiamo lasciato lo scetticismo in guardaroba insieme al cappotto e all'ombrello. Per cui anche una persona, io quello che dico sempre, no? Anche una persona che non conosce del mondo della recitazione, della voce, può capire se quello che gli arriva suona falso o no, anche da un punto di vista interpretativo, io credo. Uno va a teatro, guarda, dice non mi è piaciuto, ma è perché non li sa che non gli è piaciuto. Perché? Perché dall'altra parte il suono della voce non corrisponde alla realtà, non suonava vero. Quella quarta parete che si rompe e quella finestra aperta dove il pubblico gli piace affacciarsi e vedere suona falso. Vede che quella coppia che sta litigando all'altro palazzo sa che è guardata, per cui finge. E allora se una persona se ne accorge, se dall'altra parte, soprattutto le donne, per tornare alla vita di tutti i giorni, suona falso oppure no. E così è quello che stai dicendo tu. Poi se vuoi c'è quella bellissima sospensione di credibilità, bellissima. Senti, per cui la voce e la radio è la cosa migliore. Com'è il rapporto voce e radio? Insomma, c'è una predilezione, come dire, la radio. Matrimonio d'amore, diciamo. Perché se togli la radio, se togli la voce, la radio non è nulla. Diciamo che la voce migliore è quella che si sposa con il suono, con la radio che celebra le nozze. Insomma, ecco, quindi la musica, la musica deve stare insieme alla radio. Lo so che lo dico a una radio prevalentemente parlata. Sì, ma questa è una talk radio. Ecco, tiro un po' un sasso in piccionaia. Però, diciamo, per me la voce è una forma di musica. Ecco, quindi ma assolutamente, sarebbe bene uno che strumento. Tutti i generi musicali si parlassero. Ecco, come gli strumenti di un'orchestra. Comunque il luogo, la basilica dove si celebra questo matrimonio è la radio, da sempre, un mezzo straordinario che ha trovato poi il mezzo per, come dire, il modo per ricrearsi sempre quando è arrivata la televisione, quando è arrivato internet, prima il telefono e poi appunto alla digitalizzazione dei media che permettono a tutti sostanzialmente di fare radio, se uno veramente lo vuole. La radio, io lo dico sempre, caro Enrico, è il mezzo più evocativo insieme a un buon libro, nel senso che il libro c'è quella voce sola, no? Mentre lo leggi, certo. E che dà la profondità, poi non è che stai recitando, non la senti la tua voce suona nella testa mentre stai leggendo e dai corpo a quella persona, a quell'ambiente, a quei colori. Infatti molte volte resti deluso poi quando da un buon libro, no, diventa un film, perché tu t'eri costruito con quella voce sola, t'eri costruito un altro tipo di realtà, un altro tipo di faccia, un altro tipo di situazione. E la radio invece è ancora più evocativa da quel punto di vista, perché la radio veramente basta una voce che ti accompagni, dei suoni che sottolineano il momento e tu credi perfettamente dove sei stato, dove sei catapultato in quel momento. Certo. Basta un po' di pioggia, un po' di vento, una musica e una voce che interpreta. Com'erano? Perché purtroppo non ci sono più e me ne dispiace, vorrei tanto riportarli in auge i radiodrammi, perché è un modo bello di seguire anche delle realtà che non puoi... Ecco, i fratelli Karamazov, tu non te lo leggi magari il libro, magari per radio a puntate lo segui volentieri accompagnato dalle bellissime voci. Facciamole durare, diciamo, un romanzo in 15 minuti e facciamolo. Magari. Non è una cattiva idea. No, si potrebbe assolutamente fare, insomma, di colleghi brevi pronti a ricominciare in questo percorso, soprattutto una radio come questa, una talk radio come Radio 24. Una buona, sì. I massimi esponenti. Assolutamente. Anche perché questa trasmissione sta cominciando a creare un po' di fidelizzazione, mordere, importante, certo, a mordere, certo, perché certo. Bene o male, anche se è un orario ora particolare, non andiamo contro le partite, lo dico, per cui non dobbiamo né vincere né pareggiare né essere sconfitti, però portiamo un'alternativa, perché questa è proprio un'altra domenica, come dice il direttore, una domenica non che possa dubbio. Accompagnare le persone attraverso il mondo della storia, della musica, della voce e quant'altro. Senti, staremo insieme anche dopo questo momento. Tu hai aperto un link molto interessante, quello della finzione e della realtà. Realtà e finzione è una cosa che si è sposata incredibilmente in periodo non sospetto, e stiamo parlando del 1938 più o meno, quando un ragazzino di 23 anni chiamato Orson Welles fece una trasmissione radiofonica tratta sempre da un Welles, non lui, La guerra dei mondi. Che è successo lì? Che è successo? We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. Questo era lo startup alla CBS in diretta della guerra dei mondi di Orson Welles, ma non era semplicemente un radiodramma. Che è successo, Nico? Che è successo? È stata una giornata che ha sconvolto il mondo. Sì, fu, diciamo, la grande finezza fu che cominciava in questo modo. Ci colleghiamo con il salone dell'albergo Tal dei Tali, dove c'è un programma di musica latinoamericana. E quindi si cominciava a sentire questa musica, e quindi sembrava di assistere a un programma musicale. Certo. E poi continuamente questa musica veniva interrotta da uno speaker che raccontava di questo sbarco di alieni nel New Jersey. Poi New Jersey ha una fama e che è come se noi dicessimo, non so, che gli alieni sono sbarcati, non so, a Caserta, ecco. Certo. Uno dice le bufale si mangeranno tutte le astronavi, oppure che so io, gli smonteranno le ruote delle astronavi. Cioè, è un luogo un po' surreale da pensare che un marziano scende proprio nel New Jersey. Allora chiunque si mettesse in quel momento in ascolto, e la radio, come sappiamo, diceva la verità. È un libro dove uno comincia dalla prima pagina generalmente, no? La gente, lo so, tornava a casa prima e non, si era persa tutto l'inizio e quindi aveva l'impressione di una trasmissione continuamente interrotta da questi annunci su quello che succedeva a questi marziani. Quindi effettivamente ci furono delle scene di panico. Naturalmente bisogna anche pensare che era la notte di Halloween. Anche. Secondo. E terzo, bisogna anche pensare che c'era appena stata l'invasione nazista dell'Austria. Era la prima volta che un po' gli americani... Per cui trovava un terreno fertile da questo punto di vista. Aspetta, Nicola. Enrico, scusami. Sì. Enrico, fermati qui. Continuiamo questo viaggio tra realtà e finzione, perché questa cosa di Orson Welles bisogna... è la radio protagonista assoluta di un momento che ha cambiato veramente le regole del gioco in un periodo non sospetto. Allora, restate con noi, Radio 24, Voice Anatomy. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci tornati qui negli studi di Roma di Radio 24, sempre in compagnia di Pino Insegno per questo viaggio intorno alla voce in tutte le sue declinazioni. Vi ricordo ancora il numero verde per partecipare con noi, è l'800 24 00 24, e con gli sms che state spedendo numerosi al 349-238-6666. Siamo in compagnia del professor Enrico Menduni, abbiamo cominciato un viaggio proprio intorno alla voce, tra la realtà, fra il fake, come si dice, la finzione, fra quello che è il rapporto della voce con il grande suo mezzo migliore, che è quello della radio, ovviamente quello che stiamo utilizzando noi adesso, e abbiamo cominciato a percorrere il momento del fake più importante, del falso più importante della storia, quando questo ragazzo geniale, straordinario, come chiamato Orson Welles, che all'età di 23 anni si inventa questo radiodramma tratto dalla Guerra dei Mondi, ma che cosa fa in diretta sulla CBS? Interrompe la normale programmazione radiofonica di quel giorno con questi inserimenti giornalistici che portano poi la gente a pensare che sta succedendo davvero, che nel New Jersey sono atterrati i marziani, per cui un'idea geniale che comincia però a far capire che cosa significa finzione, realtà, perché le persone, se non sbaglio Enrico, sentivano la radio e quello che dice la radio o il telegiornale è la verità. Certo, non c'era la televisione, la radio era un po' la dittatrice della informazione, a parte i giornali, insomma, quella che succede tutti, in tutti i momenti del giorno, e quindi ci furono effettivamente delle scene di panico, delle persone che abbandonarono casa, degli incidenti stradali a causa appunto di queste fughe, di questa gente che evidentemente sentiva anche... Guarda, lo facciamo sentire Enrico, Enrico, è proprio questo, c'è un contributo, sempre tratto dalla Guerra dei Mondi originale di Orson Welles, è un contributo che la gente ha sentito per radio, ascoltiamo. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? Jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Pazzesco, era vero, Enrico, pazzesco, quando le persone accendono in quel momento la radio, ascoltano una cosa del genere, insomma questa era, non era realtà, questa era finzione, ma in un mezzo come reale, come quello della radio, è incredibile tutto questo, certo, non è più successo. Non è più successo, anche perché diciamo c'è stata una serie di cause legali senza fine, e quindi si sono accorti alla CBS che appunto i contratti che avevano firmato con Welles erano un po' carenti. Se voi adesso firmate un contratto in America per la radio e la televisione sono più di 100 pagine va bene, di queste 100 pagine di contratto, mm-hmm, almeno 90 vengono dopo questa trasmissione. Infatti Orson Welles l'ha detto, pagare un sacco di danni alla gente, e infatti Orson Welles l'ha detto, dovevo andare in galera, invece sono diventato uno dei registi più famosi di Hollywood. Lui era bello, è tronfio, vero, nonostante l'età, anche perché poi 3 anni dopo ha fatto quello che ormai è rimasto e considerato il più grande capolavoro del cinema, che è Quarto Potere. Anche sì, lì ha andato incontro a denunce di qualsiasi tipo, perché insomma poi racconta la storia reale di un magnate americano di quel periodo. Beh, la stampa. Sì, non gliel'ha perdonata anche questo. Ma sempre a proposito, dimmi. C'era un fake, perché sì, in Quarto Potere c'è un finto cinegiornale, sì, dedicato a questo padrone Xanadu, insomma questo magnate immaginario, tanto immaginario che insomma qualche volta sembra un magnate che anche noi abbiamo conosciuto, perché compra un giornale, fa una grande cena per i redattori di questo giornale, e arrivati diciamo alla frutta si apre una porta e entrano tutte le ragazze in costume da bagno. Bene, anticipato. Questi giornalisti non avevano mai visto una donna sotto i 40 anni, quasi svengono dall'emozione e giurano fedeltà a questo nuovo magnate. Che quindi, grande film, cioè, 26 anni. Lui è del 1915, Orson Welles, sì, il film è del 41, fatevi i calcoli. Cioè è pazzesco, e lui poi interpretava fino alla fine un uomo anziano che muore in bocca a Rosebud, eccetera eccetera, per cui con tutte le inquadrature che poi sono state sviluppate dai più grandi registi. Ma abbiamo, a proposito di fake, a proposito di realtà, finzione, la radio, abbiamo una telefonata da Luca da Genova. Benvenuto Luca. Ciao Pino. Ciao, ciao Luca. Ciao, volevo farti una domanda. Sì, più che a me al professore, okay. Meglio, io mi chiamo Insegno di cognome, ma preferisco che sia qualcun altro. Perfetto, gentilissimo. Volevo chiedere, proprio sul fake, oggi il fake viene sostanzialmente visto come una cosa negativa, però è un aspetto che può anche essere considerato positivo, oppure solo esclusivamente negativo, e anche se al giorno d'oggi anche con i nuovi media è possibile che avvenga una rivoluzione simile a quella descritta da Orson Welles. Allora, professore, non mi avventuro a rispondere. No, allora, le domande in realtà sono due travestite da una. Uno, se il fake sia solo male o solo bene. Naturalmente c'è un fake bancomat dove io infilo la tesserina e c'è uno che si fotte il mio numero e poi prende 500.000 euro dal mio conto, che tra l'altro non ci sono. Ah, così? Ah, scusa, no, pensavo. Un altro fake. E anche quello, capito? Sono dei finti bancomat con dentro degli uomini di piccola statura che ti pregano la tesserina, guardano tu che digiti il finto numero e poi hanno un bancomat buono, insomma leggende metropolitane se vogliamo. Però accanto a questo fake mariuolo, malizioso, beh, l'arte senza fake non è niente, insomma, ecco, l'arte è sostanzialmente una riproduzione ed è una simulazione della verità, quindi io francamente non ho assolutamente nulla contro il fake se non è usato per truffare le persone. Senti, ma il doppiaggio è un fake, Enrico? Ma il doppiaggio, se qui ci fosse un doppiatore, ci direbbe che il doppiaggio è un'arte, appunto. ce l'hai. È appunto, il doppiaggio è un'arte performativa. Un'arte performativa, non è una semplice, come dire, un falso rispetto, certo, a... È un modo per avvicinare lo spettatore di un altro paese, e poi i direttori del doppiaggio e anche gli autori dei testi tradotti certe volte sono degli assoluti geni, perché c'è da rispettare la lunghezza delle battute, certo, il labiale, insomma, battute di spirito, l'umorismo di altri paesi, l'umorismo ebraico, sono stati fatti dei veri e propri capolavori. Sì, comunque, questa è la prima parte della domanda. La seconda è se sarebbe possibile ancora oggi qualcosa del genere. Sì e no. No, perché la radio non è più, diciamo, la dittatrice dell'informazione quotidiana. Qualunque evento succeda, noi lo sappiamo contemporaneamente da tante di quelle fonti, che se uno dicesse che sono sbarcati i venusiani, uno guarda un attimo su Twitter, poi se c'è la conferma, telefona, cioè, insomma, se non è... insomma, non abbocca più. Io ho letto un giorno che ero morto, mi hanno messo su, su internet, sono andato a controllare, ho sentito la radio, no, in televisione non l'hanno detto, mi sono sentito già meglio e sono uscito. Ma... Hai respirato. E quindi, diciamo, sicuramente no, ma è anche vero che noi siamo pieni di tentativi di fake. Non più tardi di 20 anni fa, per dimostrare le crudeltà del dittatore Ceaușescu, quello rumeno, fecero vedere delle foto di autopsie, quando sono questi cadaveri ricuciti almeno peggio, e furono fatte passare per le crudeltà di Ceaușescu, che era crudele, ma non per quelle cose lì. Esatto. Via via, inventandosi le cose, se devi fare un gabbiano sporco di petrolio e non trovi il gabbiano sporco di petrolio, quindi un pennellino, pennelli bene un povero gabbiano che non ha fatto niente di male e dici che sono le conseguenze dell'inquinamento, che sono pesanti, ma in quel caso soprattutto sul povero e innocente gabbiano. Certo, anche se era vero, ma non c'era la disponibilità. Insomma, che futuro c'ha, Enrico, la radio? Che futuro vedi rispetto agli altri mezzi e quello della voce a questo punto? La radio se la cava egregiamente perché è leggera. E quindi non è una cosa che richiede apparati molto pesanti, che si fa con un cellulare, che si fa in un baracchino da 4 soldi, che richiede una radio ricevente che non costa praticamente nulla e quindi è alla portata di tutti, che può parlare tutte le lingue del mondo. Quindi mi pare che lei sopravvive bene a questa crescita del multimediale proprio a causa del suo carattere, quella dico un parolone, interstiziale, che si ficca un po' dappertutto, no? Che tanto non costa niente, non sarà molto attendibile, però c'è sempre. Ma insomma, la voce, professore, la voce è proprio l'elemento di comunicazione più potente al mondo, secondo te? Assolutamente sì, perché è immediata, è diretta, è quella che più è vicina al contatto tra le persone di carne e ossa. Se io ho un amico, pure una stupenda signora che mi passa accanto, qual è il modo? È quello di rivolgergli la parola, ecco. Certo. Non è che gli mando un tweet o gli faccio un fischio, ma anche quella mi dà una borsettata. Esatto. Sarebbe sgradevole. Certo. Per cui è bellissimo questo viaggio intorno alla voce, alla verità, alla fantasia, a quello che può costruire. Certo, dopo quegli esempi di Orson Welles non c'è stato nessuno che si è avventurato in una cosa del genere, proprio per questo motivo. Forse c'è un controllo maggiore in tutto quanto, però io lo ritenterei, magari studiandolo sui vari mezzi di comunicazione, un fake integrato a quel punto, cioè una guerra di mondi che va su Twitter, che va su Facebook, che va sul telecine IGR, eccetera, eccetera. Va bene, Enrico, abbiamo aperto un argomento con te, ne apriremo sicuramente degli altri, come abbiamo fatto con gli altri nostri amici professori di università che si sono affacciati dentro questa trasmissione. Ci hai reso anche tu molto più ricchi a proposito di questo nostro viaggio. Ti ringrazio, Enrico, di gran cuore, davvero, grazie del tuo intervento. Sull'astronave. Sì, quando atterrerai qui vicino Piazza Indipendenza noi ti aspetteremo, vediamo se è un fake o no. Ma Enrico esiste davvero, come voi esistete davvero, come voi Sanatomi esiste davvero. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, qui sempre in diretta da Radio 24. Abbiamo parlato poco fa del fake, della finzione, dell'importanza della voce, della radio come unico elemento più importante forse in questo momento per quanto riguarda la voce. Cos'è la realtà, la finzione nella voce? Abbiamo detto che i doppiatori o gli attori non è un fake, non è una finzione, ma è un performer, una performance tradotto in italiano, una performance eccetera. Ma c'è anche un altro esempio di fake o comunque di falso, ma anche quella è una performance ovviamente. Parliamo delle imitazioni, proprio viene utilizzato tantissimo tempo, voi non lo ricordate come lo ricordo io, ma anche chi non lo ricorda l'avrà visto magari riprodotto, il grande Alighiero Noschese, che fu il primo esempio di grandissimo imitatore televisivo. Lui era proprio il padrone di casa in mille trasmissioni degli anni 60 e 70 e non solo. Pensate che una volta che fece Giulio Andreotti in televisione, la madre non riconobbe che era Alighiero Noschese, pensava che fosse proprio suo figlio. Giulio Andreotti lo chiamò e gli disse: ma come ti è venuto in mente di andare a cantare in televisione? Ma era il grande Alighiero Noschese. Da lì poi proprio il figliolo, lo spin-off di Alighiero Noschese fu il grande e indimenticato, un mio grandissimo amico, ma di tanti altri lo ricordo con grande affetto, Gigi Sabbani. Una morte un po' troppo prematura, ma non voglio soffermarmi su questo, anche se mi è dispiaciuto veramente tanto di come è andata, il grandissimo Gigi Sabbani. E dopo di lui ovviamente ci sono stati altri imitatori che si sono alternati sul panorama televisivo fino ad approdare ovviamente anche nel cinema eccetera. Ma c'è una persona che io amo particolarmente, senza nulla togliere agli altri colleghi bravissimi, ma con lei ho anche camminato attraverso varie trasmissioni televisive, l'ultima con Tale e Quale Show, è stata anche la mia coach per interpretare al meglio i personaggi che io cercavo di imitare. Lei è in diretta con noi, Emanuela Aureli. Ciao Manu! Vino caro, ciao Vino, come stai? Grazie di queste belle parole che riservi sempre per me, guarda, sei troppo carino. Non stai imitando un personaggio umbro, lei è di Terni. Si sente? Sapresti come giunge ancora più bella la radio questa tua voce così composta, bella, pulita, da grande attore, proprio che bella da cui ha studiato come pochi, perché tu sei stato un grande che viene dalla gavetta, ma che ha anche studiato tanto e si merita tutto quello che ha, perché sei un grande artista e una grande persona. Buona, fermati, sei te il protagonista. E io ti adoro. Quando è nata la tua passione per imitare? Qual è stata la prima voce che hai imitato? Allora, io praticamente a 5 anni mi divertivo ad imitare Beppe Grillo, Enrico Peruschi. A 5 anni? Come lo facevi? Del tempo, in pratica, Come lo facevi Beppe Grillo a 5 anni? È una cosa pazzesca, ragazzi. Che più non insegno, ragazzi, che è forte. È una cosa pazzesca, ragazzi. Vabbè, Enrico Beruschi magari non se lo ricordano tutti. Beruschi, invece per adesso sai che non me lo ricordo più. No, vabbè, ebbe un buon successo più, durante una trasmissione fortunatissima della Rai che lanciò la smorfia, Verdone. Esatto, era non stop in quel periodo. Grande era comico. Beh, sì. Per cui insomma a 5 anni hai cominciato già a furoreggiare a casa. Esattamente, ho terrorizzato un po' tutta la famiglia con queste imitazioni, perché io, oltre a giocare con le bambole, mi divertivo proprio a scimmiottare questi personaggi, capito? Quindi, diciamo, era una mattacchiona, anche quelli del paese, pensa, o la zia del paese, storica, zia Laura, diciamo che è stata il mio primo bersaglio, però in chiave chiaramente affettiva. Come faceva zia, anche se non la conosciamo? Così faceva... E vi insegno quando mi piace, è veramente uno che mi fa ridere. Era del paese, quindi del paese è rimasta con questo accento, no? Umbro, tipicamente umbro. E quindi diciamo che sono state delle voci che mi hanno un po' accompagnato. E poi qual è stato proprio il salto che hai capito? Ok, faccio questo, voglio fare questo, voglio giocare con la mia voce. Devo dire che quando poi ho iniziato, ti ricordi che io vinsi la corrida nel lontano 92, insomma lì da Corrado, e poi ho capito insomma da lì che in un certo senso volevo in qualche modo dar voce a questi miei desideri, e quindi quale modo migliore se non quello di fare i provini e quindi vedere se potevo farcela. Qual è stato il personaggio della corrida che ti ha portato fortuna lì, che hai imitato lì? Albano e Romina. Com'erano? Vabbè, felicità era. Felicità, ed eri romina chiusa in cantina la felicità. Poi passava lei. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole. Felicità. E poi continuava sempre questa felicità. Quindi è... diciamo è stata un po'. Soprattutto vedere, ecco, l'unica in quel periodo che poi ha continuato era soltanto Loretta Goggi, non ne avevamo altri grandi esempi di sì. Lui, chapeau, ce l'hai lì quotidianamente, tutti i venerdì ce l'avevamo. Sei stato straordinario, guarda, ci hai fatto fare delle sane risate, perché, ma proprio da. Perché ero l'unico. Perché ero l'unico che ci metteva sei ore per assomigliare a Pino Insegno. Questa è stata la mia grande performance. Eri l'unico che ovviamente non si prendeva sul serio. No, questo, mai. In un certo senso, anche il senso del programma di tale quale show e anche del successo che tu hai avuto e che continui. Niente, tu continui a parlare di me, io voglio invece continuare a parlare di te, vabbè, e lo faremo. Ma io perché voglio bene, lo so, io sempre... lo so, e anch'io per questo siamo insieme qui a Radio 24. Senti, Manuela, ci salutiamo soltanto per pochissimo, oppure no? Aspetta, chiedo ancora. No, abbiamo ancora due minuti. No, ok, allora non ci salutiamo perché poi tornerai e rimarrai con noi perché dobbiamo parlare tantissimo di queste imitazioni, perché abbiamo un altro ospite in studio, magari non conosciutissimo ma straordinario, perché riesce a imitare tutte le voci dei doppiatori e tutte le loro performance dentro i film. Poi lo vedremo insieme. Poi un'altra persona che con il suo provino nella nostra voice box si è aggiudicato la possibilità di partecipare alla nostra trasmissione. Ma no, io impazzisco perché tu riesci veramente a entrare nel link di ogni personaggio. Come si fa? Cioè, per esempio, o la Clerici oppure la signora Carlucci. Ecco, la Carlucci, come fa intanto la Carlucci? Sì, ecco, e buonasera a tutti, a parlo con i stelle, ecco, stoppo il telefono che si vinte, vedremo se ne pista, Pino Insegno che vinte, si ci metterà in un tango, un merengue, eccetera, e un valzer, bravo Pino, stoppo il telefono! Ma com'è la tecnica per avvicinarsi poi a un personaggio come la Carlucci, per esempio, cosa fai? Questo è avere un qualcosa in particolare con quel personaggio, cioè devi cogliere una simpatia, tu devi amare quel personaggio per poterlo rifare, certo. No? E sì, quindi, sì. Ti deve ispirare qualche cosa, per cui devi assaporarne la gestualità, la mimica e come si muove, come e la voce, certo, poi oltre voce, quello poi la c'è voce, la caratteristica poi nella voce, che non è facile, assolutamente sì, ma poi comunque poi ne puoi fare anche una parodia, perché se beh, poi vuoi fare anche un po' buffa, capito, cioè devi esasperare certe caratteristiche per farle riconoscere al pubblico, quindi devi metterle un po' come se dovessi mettere un evidenziatore su alcuni caratteri di un personaggio. Assolutamente. Quindi, senti, abbiamo altro po' di tempo, fra pochissimo, per farci questo bellissimo percorso attraverso la voce, attraverso la tecnica della voce, perché noi siamo qui anche un po' tutorial dei nostri ascoltatori. E allora rimanete con noi, Voice Anatomy, Radio 24, Emanuela Aurelia, tra poco. Anatomy. Eccoci tornati immediatamente dopo il traffico qui in studio con Voice Anatomy. Al telefono la straordinaria Manuela Aureli, un'imitatrice e non solo, una showgirl a tutto tondo. Io ti adoro, lo sai, tu adori me, questo ce lo siamo detti. Ma stavamo parlando della tecnica. Qual è il personaggio che ha avuto più difficoltà ad imitare, ma l'hai dovuto fare? Allora, bella domanda. Diciamo che un po' tutti quanti sono complessi e difficili, però diciamo che scegliendoli personalmente, in un certo senso, no, c'hai anche un vantaggio in più, non è come tale quale show, un po' in un certo senso vengono imposti e quindi devi per forza farli. Certo. E quindi il personaggio più complesso magari è Mina, sicuramente uno dei più complessi. Perché è stata cantare Mina. Come lei. Poi perché non, la gente non la conosce tanto come parola, Mina, la conosce come canto, per cui c'è una doppia tecnica, sia vocale quando recita o parla normalmente, sia quando canta. Tu l'hai esatto, fatto quando canta e quando anche parla. Esatto, poi c'è anche una mimica comunque molto, molto, che si evidenzia molto anche con questo sguardo, con questi occhi, questa espressività. Com'è Mina? Come fa Mina? Mina adesso resto calda con la... Non è che mi sono riscaldata la voce, tra l'altro c'è anche un abbassamento, Pino. Di allora voce. La Carrà, a questo punto l'abbassamento Carrà. La Carrà, bravo. Mamma mia, che bello essere il tuo ospite, Pino. Saluto te e tutti i tuoi ascoltatori che ti stanno ascoltando adesso. Io ti seguo da sempre e ti ammiro veramente da una vita. E la Goggi? Eh? E la Goggi che fa? Chapin! Lei, chapeau, ecco, chapeau, lei ride, ha fatto tutto, mi fa troppo ridere, guarda. Senti Manuela, noi abbiamo qui vicino, vorrei che tu rimanessi qui con me, c'è un nostro amico che ha 27 anni, è un attore, un doppiatore, un filmmaker e soprattutto poi è un imitatore delle voci italiane di film e di cartoni animati. Ed è divertentissimo, lui è veramente bravo, è un nostro, è l'unico po' che mi imita, a me non mi imita nessuno, forse non ci avrò caratteristiche, ce l'ho, poi sono sempre così retorico, ridondante, eccetera eccetera, come disse un giorno Carinei, mi disse: insegno, lei è l'unico che al posto di un semplice grazie riesce a dire mille parole inutili prima. Bene, quella fu una cosa su uno shock. Ma comunque lui è Alberto Pagnotta, e qui è vicino a me, cara Manuela. E ciao. Se andate su internet troverete che fa dei passaggi di tutti i generi. Per esempio sui Simpson, che sei straordinario. Grazie. Le voci dei Simpson, che la gente conosce per fede. Fai un percorso, una carrellata. Una carrellata della famiglia Simpson. Da Homer, allora. Desidero un panino di segale al tacchino con la mostarda piccante, non voglio nessun tacchino zombie, non voglio diventare io stesso un tacchino, non voglio nessun'altra sorpresa zombie. Sono stato chiaro? Poi c'è il nonno Simpson. Il mio Homer non è comunista, sarà un bugiardo, un idiota, un maiale, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar. Ma c'è Milhouse? E quel bambino con lo zaino ha detto mitico, io dico mitico, questa è la mia battuta. O il commissario Winchester? E va buono circolare, non c'è niente da vedere, è bello. E i figli? E i figli sono donne, quindi la castagna Monica Vuota è un po' complicato farla lì, sai. No, è questo, ci sei. Hai sentito Manuela? Che bravo. Ma io sono proprio rimasta in silenzio perché sono identici, sei straordinario, mamma grazie. Mia, no, ma poi che capacità. Il nostro amico si era anche presentato. Io sto per diventare mamma, quindi fra un po'. È vero. Ti prende in affitto, almeno mi fai un po' di sì. Volentieri. Quanto manca, Manuela? Quanti mesi? Però mio, manca, ecco, a dicembre, e se Dio vuole a dicembre. Vabbè, ma c'è mania di grandezza, figlia mia. Ma a dicembre lo fai nascere. Ma dov'è? C'è una grotta vicino Terni dove vi avvicinerete? C'è una grotta, sì, qui vicino, lo mettiamo qui una grotta, capito? Ecco. Io ti vengo a portare un po' di qualche dono, verrai. Ma io mi chiamo Giuseppe, mi posso mettere vicino a te se vuoi qua a sera. Zio Pino, magari, Zio Pino. Hai capito? Vabbè, Giuseppe se ne presenta a dicembre al momento della nascita, insomma, sì, dai. Senti, poi Alberto, che altre curiosità ci sono? Sono tante, devo dire che è stato anche chiamato a fare il provino quando il nostro grande amico e doppiatore Tonino Accolla ci ha lasciati. Alberto fu chiamato per cercare di ridoppiare Homer Simpson, poi invece sul filo di lana Massimo Lopez ha avuto la meglio, insomma, vabbè, qui sono gradimenti eccetera. Qui qualcuno, che poi Massimo è un doppiatore, non è soltanto un attore, infatti qualcuno anche negli SMS ci dice: ben capisco perché spesso vanno a doppiare i cartoni animati a personaggi vari televisivi che non sono doppiatori. È vero, è una diatriba, come abbiamo detto prima, diatriba, perché qualcuno ci ha detto che si può dire anche così perché è nella sua forma latina con l'accento sulla i finale. Siete straordinari, vedi, Giuliano da Roma. Avevo inoltre fatto una domanda sui cantori castrati della Sistina, purtroppo non c'è qui Fiamma che può aiutarci, e dice che soli 8-12 anni, visto il divieto per le donne che è durato fino all'Ottocento di calcare le scene. PS, i testicoli venivano chiamati granelli. Vedete quanto sono forti i nostri radioascoltatori, molto molto attenti. Sì, ogni tanto ci sono personaggi famosi perché in America fanno doppiare i cartoni a degli attori eccetera, però lì la tecnica è diversa, chiamano Robert De Niro, lo fanno recitare e poi costruiscono il cartone intorno alla recitazione di De Niro, poi arriva di qua e vogliono la stessa realtà di fama. Ok, poi non ci abbiamo troppi attori famosi bravi nel doppiaggio, qualche volta insomma sono scelte un po' forzate che forse non avrebbero neanche bisogno di essere fatte, però insomma sono scelte di comunicazione, di strategia, di marketing che uno deve assolutamente rispettare. Non provo traccia di punteggiatura nella lettura dei GR, dice Stefano. È vero, ogni tanto il giornalista deve essere freddo, asettico e magari certe volte pure troppo. Vabbè, faremo un corso anche a loro. Alberto, poi chi c'hai? C'è Forrest Gump, per esempio, riesci? Giorno, mi chiamo Forrest Gump. Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre. Vivevamo a quasi un quarto di miglio dalla città di Greenbow, in Alabama, sta nella contea di Greenbow. Sentito, è bello che c'è dentro casa lui. Guarda che veramente è proprio ripercorrere con l'immaginazione dei momenti anche di un film, dei momenti. Che gli vuoi chiedere? I personaggi di cartoni, magari della Disney, proviamo, non so se della Disney. Guarda, come stai combinato? Io guarda, ultimamente ho fatto Violetta, anche la voce Violetta. No. Violetta troppo recente, è troppo lenina. Ora sabes che io non intendo, non è vero. Sembra una che ha 40 anni, 90 anni, con le insomma, capito, no? Della ragazzina che insomma, è piccoletta, però dimostra 40 anni. Insomma. Esatto, è un po' come Cristina D'Avena, insomma. Che non... Cristina D'Avena, almeno. Posso fare un po' i vecchi classici, Anacleto della Spada nella Roccia, Lauro Gazzetta. Lauro Gazzolo era impagliato. Guarda come parli, è sicuramente anche molto meglio di te. A questo punto sembra anche il vecchietto del West. Sì, era sempre lui. Oppure Carlo Romano sul grillo parlante. Addirittura Carlo Romano, Carletto Romano, la voce di Jerry Lewis, sì. Eccetera. Com'era? La coscienza è quella vocetina interna che la gente ascolta così di rado. Per questo il mondo va così male oggi. Sei un classico per recuperare proprio. Un altro dei cartoni che ti piace fare? Sebastian della Sirenetta. Com'è lui? Adolescenti credono di sapere sempre tutto. Tu gli dai tanto così e loro si prendono tutta la pinna. Non è facile. Io feci il provino su questo personaggio. Fare quella calata di tipo Bob Marley, sì. Giamaicana, non era facile per niente. Non era. Infatti ho perso quel provino. L'ho perso proprio andando. Ma che bello stare con voi, santa miseria. Vi chiedo come. Questo ragazzo. Sì, grazie. Grandi capacità. Che poi per un imitatore deve trovare anche la caratteristica sulla propria voce, cioè non rischi, Manuela, di perdere poi la tua personalità, cioè Manuela Aureli chi è? Capito? È quello mio. Io ho sempre la consapevolezza di quello che sono. Ecco, mi piacerebbe essere un'imitazione, però purtroppo sono quella originale, quindi vorrei tanto cambiare l'originale. Se poi fa doppiare qualcuno, no? Mi piacerebbe. Però devo dire, guarda, è come entrare e uscire, no, da un personaggio, è come fare un trasloco, Pino, lo dico sempre. E quindi è un trasloco di anime, ma poi la tua anima rimane sempre quella, anche se assorbe in un certo senso l'anima, il carattere, anche il modo di vivere, di pensare di quel personaggio, però tu comunque rimani. Manuela, qual è quello che voi sei rimasta più affezionata? Ognuno di voi ha magari un personaggio al quale è veramente affezionato, a prescindere dall'imitazione giusta o sbagliata, quello che proprio senti più vicino. È Raimondo Vianello, perché è stato il primo personaggio che ha rappresentato un po' le mie prime sicurezze nel lavoro, quindi è stato il primo personaggio che imitavo, quindi la gente apprezzava questo fatto, il fatto che rideva, no, la gente a questa imitazione. Eh sì, perché una donna che si avvicina all'imitazione di un uomo, poi di un'icona così importante, come fa Raimondo, come fa? Fammelo rivivere un po', dai. Buonasera. Io ti insegno, ti seguo anche dall'alto, guarda, sei forte. Raimondo, guarda che sono stufa, io non ne posso più, che noia, che barba, che noia, e te, e io non succede mai niente, tutto sopra quale, ti lascio e mi metto col primo che passa, Addio. Il problema è stato quello lì, che appena ti vedono non passa più nessuno. Che bella che sei, grazie, no, Manuela, davvero, di cuore, di aver partecipato con grande testimonianza e grande affetto, grazie. Non avevo dubbi, continuerai questa avventura di Tale Quale Show, spero di tornare magari a sorpresa ospite in un'altra puntata dopo la grande interpretazione di Amedeo Minghi. Non posso mancare, assolutamente. Ma non puoi mancare perché fai sempre la differenza. No, ma è bella la trasmissione e il padrone di casa è Carlo Conti. Devo spezzare un saluto grande a Carlo, una lancia a suo favore. Ospitalità, un bacio grande, buona domenica a te e a tutti i tuoi radioascoltatori e continua sempre ad essere quello che sei. No, ormai a 56 anni che cambia più. Vuoi salutare Emanuela Pagnotta? Sì. Come? No, con la mia voce. Ah, con la tua. Ciao, no, Alberto. Ciao, io seguo sempre tale. Leoni, lo sai fare dei leoni? Sì, Timon. Vai, chiudiamo con Timon, vai. Na na na, dilettante, distenditi prima di farti male. Allora, devi sempre lasciare il passato dietro di te. Bene, con questa frase ci salutiamo, ma per pochissimo. Grazie Emanuela Aureli, ti abbraccio a te, il tuo pancione, il tuo marito e tutta la tua famiglia. Rimanete con noi, anche l'amico Alberto Bagnota rimane con noi. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Sei troppo troppo forte, Pino. Oddio, è il grande Eddie Murphy, sempre l'indimenticato Tonino Accolla. Grazie. Bellissimo, no? Tu me lo fai rivivere così, quel pazzo scatenato. Ovunque si trovi starà a fare un casino tale. Ma è emozionato un po', sinceramente, manca un po' a tutti. Sì. E prima abbiamo sentito la nostra grande amica Emanuela Aureli, qui abbiamo Alberto Bagnota che si diverte con la sua voce, che è elastica da impazzire. Ecco, una voce così duttile non è facile da trovare. Anch'io trovo grandi difficoltà, ma è il piacere e la sfida di ogni doppiaggio, perché quando passi da Sacha Baron Cohen a Viggo Mortensen o a Jamie Foxx, direi piuttosto quello di Django, il divertimento proprio della voce è quello di cercare di assomigliare il più possibile e dargli quell'anima che quel personaggio ha messo nel film. Tu riesci a imitare chi sta imitando una voce, cioè è pazzesco. Ma sì, diciamo che è nata così la passione per il doppiaggio, nel senso da piccolo ho iniziato a riconoscere le varie voci, cercavo di capire qual era magari la voce naturale di un doppiatore, come la cambiava in base... pure quello riesci a... Ma cioè, ti raccontavi... mi serviva a me per poi... Per arrivare? Sì. Per cogliere le varie sfumature, diciamo. Nel doppiaggio come stai? Sei riuscito a... Ma sinceramente farei un appello, perché fallo, non sto lavorando tantissimo. Ho fatto delle cose un po' più rilevanti su Diario di una Nerd Superstar, dove ho fatto un personaggio. Ma forse perché anche lì, quello diceva Manuela, devi trovare, forse devono capire qual è la tua reale possibilità, no, naturale, la tua personalità. Sì, però quando hanno conosciuto io... prima la personalità degli altri, e non è facile, è più difficile il percorso. No, però io cerco anche di esercitarmi molto facendo spesso letture ad alta voce con la voce mia, quando faccio i provini di doppiaggio, ovviamente. Tu di dove sei, Alberto? Voce. Di Pesaro. Anche quello è importante, sai, per esempio la difficoltà delle persone della Sardegna di perdere un po' quell'accento è più difficile che magari uno del nord o del nord-est. Riesci, per esempio, Dario Penne, pure se resta un po', si sente qualcosa aleggiare, ma è perfetto, sì. È un grandissimo attore che abbiamo avuto l'altra settimana. Io ho avuto grandissime difficoltà, per esempio, quando ho fatto Il Signore degli Anelli, per chiamare Frodo nella Terra di Mezzo. Cioè, una difficoltà assoluta, perché io l'addizione ce l'ho ormai, per carità. Ma chiamare Frodo, uno di Roma, e a me veniva Frodo! Frodo! Non riuscivo a capire, tant'è che lo raccontasti a Mauro Donzelli e a Coming Soon. Sì, perché è una difficoltà assoluta, tant'è che Vairano, il direttore di doppiaggio, bravissimo, che avremo anche lui ospite, mi disse: Pino, più che la Terra di Mezzo, fra Minas Tirith, cioè, sembra la Terra di Mezzo fra Torpignattare e Centocelle. Cioè, beh, non riuscivo. Tu mi hai fatto a me, nel senso buono del termine, non... Alberto. Non benissimo, ci ho provato. Com'è Vairano? Com'è Vairano? Non lo conosce? Vairano è un po' così quando racconta gli aneddoti su. Io Pito non lo volevo fare inizialmente, poi insistevano: ma perché non lo provi tu? Ho detto: scusate, ma perché devo farlo io? Ma perché è viscido e ambiguo? Ah, lo devo prendere come un complimento. È vero, lui racconta questo. E poi lui ha doppiato il Signore degli Anelli, a parte averlo diretto magistralmente. Sì. Smigol, Gollum l'ha fatto, sì, lui, insomma, lo sai fare quello, sì. Ci provo. Vai. Il padrone mio amico. No, tu non hai nessun amico, non piaci a nessuno. Te l'ascolto. E questo è il bipolarismo del nostro amico Alberto Bagnota, che prende delle gocce di Elopram tutte le sere per cercare di normalizzare la sua vita. Ma tu le storie te le sei raccontate da solo a letto, praticamente. Mamma, hai risparmiato un sacco di fatica. Sì. A mamma io. E papà cominciavano, c'era una volta e tu dicevi: una principessa nel bosco, poi arrivò all'improvviso qualcuno, eccetera. E mi trascrivevo i dialoghi dei film e poi me li recitavo. Volete partecipare con noi, il numero è sempre 824 0024, gli sms 349 238 6666. Ci arrivano: ciao Pino, riusciresti a replicarci qualche battuta di Aragorn interpretato da Viggo Mortensen? PS, la Lazio pareggia 1-1. Grazie, sapete anche le mie, il mio affetto calcistico, anche perché c'ho dall'altra parte il tecnico lì che è della squadra opposta alla Lazio. Si può dire, per la, dice, può dirlo Roma, eh? Ma sì, la gente lo sa, è un gioco ovviamente. Manuele Aurelio è una persona che più volte ho avuto modo di incontrare in Rai e parlarci tanto, l'umiltà è una sua grande virtù, è fantastica, è Nicola. E poi che cosa è questa cosa? Che bella, è una bella frase, però non seppellire il nostro amore in un'arida stele di marmo, in un sarcofago, forse che è proprio Viggo Mortensen, mi sa. Freddo di metallo e umido legno, mettilo in una siepe del tuo cuore, onde possa ad ogni primavera rifiorire. No, non è Viggo Mortensen, è una poesia di qualcuno molto famoso. Io ho fatto una figura orrenda, ma non ha firmato, e per cui ormai l'ho letta. Speriamo almeno di averla letta bene, perché altrimenti è finita. Senti, il mio Viggo, come fa? No, dai, fallo, mo stai davanti a me, non lo fai. Non mi ha mai imitato nessuno. Mi sembra di non avere nessun tipo di personalità. Me ne vado. Quelli erano le battute, aspetta. E che ne so, figli di Ron. State fermi, restate fermi. Ma guarda, ho fatto un grande sforzo per fare te, perché non è nelle mie corde. Mi sono divertito più a fare il pino normale quando dice: il doppiaggio è l'unico mestiere dove quando perdi un provino tu lo vince un altro bravo. Il pino romanaccio che esce fuori. Sì, perché io non perdo la mia indole, ovviamente un dialetto anche lì, nella voce ne parleremo ancora di dialetti, è fondamentale mantenere se stessi anche in quei casi, insomma. No, non lo perdo, perché altrimenti rischi di suonare fake, falso, sì. Te la giochi per te, devo dire la verità, uno la voce per telefono se la gioca. Io alcune volte, ormai sono 7 anni che sono sposato, entriamo nell'ottavo, non l'ho più fatto, anche se mia moglie all'inizio era un po' affascinata dalla mia voce. Adesso sai cosa mi dice mia moglie la sera? E basta, e bo bo bo, capisci? Cioè, c'è gente per strada che mi dice: Pino, ti prego, dimmi all'orecchio com'era la frase di Pocahontas, mi ha chiesto ieri una ragazza. Potrei vivere, sì, posso vivere 1000 anni senza conoscerti, non mi ricordo. Potrei morire domani piuttosto che vivere mille anni. Sì, preferisco morire domani che vivere 1000 anni senza conoscerti. Quando io ho detto la prima volta, ho fatto: che bello, che romantico, parliami ancora. Adesso mi dice bo bo bo bo. Quando ti abitui e dopo perdi. No ragazzi, veramente l'abitudine è una brutta bestia. Infatti io cerco di cambiare personaggio ogni volta. Allora faccio delle altre voci più divertenti. Parlo con mio figlio ormai, lui mi dà soddisfazione, anche se ha capito perfettamente che ormai sono falsi pure quelli. Cioè, all'inizio poi, certo, non sai cosa ho fatto per farli mangiare. Guarda, li faccio chiamare da Roger Rabbit, se non mangi, eh? Adesso ormai quelli più grandi dicono: papà, è Marco Meteo, ho capito, eh? E quello piccolo cercherò di fregarlo fra un po', sì. Ancora, beh, c'è ancora, facciamo nome Roger mio. Rabbit, come? Ah, sai fare Roger Rabbit? Io dico Marco Meteo, non vedo l'ora di averlo qui in studio, è pazzesco, passa da Robbie Williams a Roger Rabbit. L'ha doppiato, pensa, anche in Spagna, spagnolo, perché sì. Non riuscivano a trovare quel tipo di vocalità identica all'originale. Com'è Roger Rabbit? Quello è veramente difficile. No, in qualsiasi momento, soltanto quando faceva ridere. Andiamo, Andy, dove è finito il tuo senso dell'umorismo? Brrr. Quello è difficile, lui lo fa. Ecco, sì. Siamo sotto la cuffia. Senti, abbiamo adesso un altro dei prominenti che abbiamo scelto dalla nostra voice box, ripeto il numero, per lasciare il vostro provino, 828 12 12, mi raccomando. E abbiamo, credo, in diretta dalla sua casa, non da Milano. Ah, da Milano, in diretta da Milano, dagli studi di Radio 24, così potremo sentire bene l'arrivo della sua voce senza il filtro telefonico, che quello utilizziamo nei film quando c'è il telefono, giustamente. Sì. Poi lo mettono i nostri grandi missatori, che anche lì siamo i più bravi al mondo. Ecco. Di tecnica, a parte il mio, di tecnico di Radio 24, Valerio, che dico il nome, così almeno lo evitate se lo incontrate, ma i nostri missatori, i nostri tecnici del suono sono straordinari. E allora abbiamo Giovanni Mitra. Ciao Pino, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione, complimenti vivissimi ad Alberto, il doppiatore dei doppiatori straordinario. Grazie. Mi ha fatto proprio divertire, davvero. Sì, poi in internet furoreggia con queste cose. Immagino. Volevo denunciarlo, poi invece no, l'ho invitato. Adesso che mi ha fatto Pino Insegno Romano, avrò modo di picchiarlo appena finisce la trasmissione. Cosa hai fatto, Giovanni? Tanto di dove sei e quanti anni hai? Dunque, io ho 25 anni e abito in provincia di Pavia e sì. Nella vita faccio tutt'altro rispetto a ciò che riguarda il mondo della voce, ma fino a un certo punto, nel senso che sto per laurearmi in giurisprudenza. Fai la cosa per eccellenza, esatto. Della voce. Io lo dico sempre a certi amici avvocati, ragazzi, so che in un processo non è che c'è la possibilità di furoreggiare più di tanto, ma nel penale, per esempio, sì, c'è il momento in cui si parla alla giudice, che si parla. Certo, eccetera. Ci sono le arringhe dove è vero che conta molto il contenuto, ma nel nostro mestiere, comunque quello che spero sarà un domani il mio mestiere, la forma è anche sostanza, quindi. Ah beh, certo, è la verità nella voce, proprio anche quello, a proposito di fake, eccetera. È la verità che convince anche la giuria piuttosto che un giudice, piuttosto. Certo, non dico di far assolvere un pluriomicida, attenzione. No, certo. Però dico che, certo, non è il fascino del cinema dove c'è sempre l'attore straordinario che si offre, signori della corte. Quello che voglio dirvi oggi è importante, non dico questo, però ecco, quello che dico sempre, lo urlerò fino alla fine di questa trasmissione, è che lo studio della voce è fondamentale, è l'elemento primario di comunicazione, la terza dimensione che abbiamo è la nostra voce, per convincere, per vincere, per portare avanti dei discorsi, per essere sicuramente più validi nella nostra vita, la voce è fondamentale. Poi per te, insomma, anche te farai penalista o civilista? Ma mi lascio aperte molte possibilità, però in effetti qualunque sia l'ambito, la voce, saper persuadere è certamente una caratteristica importante. Quanti anni hai? 25. Beh, senti, la voce invece è più da persona più grande. Che poi ripeto, non serve la bella voce timbrata, si aiuta sicuramente, ma è l'elasticità nella voce, sono le intenzioni belle che fanno una bella voce. Non serve assolutamente parlare sempre in questa maniera, perché dopo un po' uno fa no, infatti sabbioca. Che provino, cosa hai recitato per telefono? Dunque, per telefono avevo fatto un brano del monologo finale del film Io Annie di Woody Allen, che per me è uno dei film migliori di sempre, diciamo. Anche per la mia famiglia è meraviglioso. Poi soprattutto mi ricordo Orestes Lionello. Ma tu sai fare Woody Allen? Di Woody Allen non ti mi chiedo. Orestes Lionello l'ho fatto solo nei Disney, tipo Il libro della giungla. E come, perché doppiava? È un avvoltoio quello che faceva. Trovato, potremmo farci una svolazzata sulla zona centrale della giungla. C'è sempre un po' di vita, un po' di movimento, d'accordo? Lui è straordinario. Orestes Lionello era Woody Allen, come Woody Allen ci ha detto e confessato, mi ha reso un attore migliore. È stato quello che l'ha doppiato meglio in questo mondo, proprio nel mondo occidentale. Senti, e come l'hai fatto, con la declinazione della voce di Oreste oppure, e poi di Woody Allen, con le sue incertezze, che non è un tartaglio, sono vere e proprie incertezze, come l'hai fatto? Sì, difatti ho cercato di imitare in qualche modo la voce tipica di Oreste Lionello, e anche perché all'interno di quel monologo si raccontava una barzelletta, quindi è stato il finale, è vero. Bisogna fare un po' di esitazione, un po' di pause, quindi d'altra parte Woody Allen nasce come comico, forse il più grande comico degli ultimi 60 anni. Sì, c'è chi lo ama profondamente, c'è chi non riesce a coglierlo, un po' come è successo a Groucho Marx, che è il suo vero padre, esatto. Da questo punto di vista. Io ricordo che questi provini che arrivano nella nostra mailbox 828 12 12 vengono poi mandati ai nostri direttori di doppiaggio, perché possono trovare magari qualcosa di interessante e magari far cominciare qualcuno, visto che c'è la possibilità alle persone brave di avere lo spazio. Bisogna spingere, Alberto. Lo mando anch'io. Ma guarda che tuttora io busso, tuttora io, buongiorno, non ho mai lavorato con certi direttori, mi presento e sono pronto a fare anche un turno soltanto di un personaggio minore, quello serve assolutamente, per cui mandateceli i vostri provini. Come faceva, prima di chiederti che cosa hai preparato intanto per farci ascoltare qualcosa adesso qui in radio? Ho cercato di portare qualcosa di attinente a quello che faccio, cioè alla giurisprudenza e al diritto, ed è un brano tratto dalla Regola dell'equilibrio di Gianrico Carofiglio, è un monologo interiore dell'avvocato Guerrieri, che insomma in questa fase del suo processo che sta curando entra un po' in crisi. Quindi... E invece, visto che manca soltanto un minuto prima di entrare nell'ultima pausa, prima di affrontare il rettilineo finale, com'era questo Woody Allen, il finale di Io e Annie, straordinario film, guardatelo se non l'avete visto. Com'era? Era praticamente, provo a rifartelo. Sì. Dopodiché si fece molto tardi, dovevamo scappare tutti e due, ma era stato grandioso rivedere Annie, no? Mi resi conto che donna fantastica era e di quanto fosse divertente solo conoscerla. E io pensai a quella barzelletta, sapete? Quella dove uno va dallo psichiatra e dice: «Dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina». E il dottore gli dice: «Perché non lo interna?». E quello risponde: «E poi a me le uova chi me le fa?». Beh, credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna. E cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi e... Ma credo che continuino, perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova. Che bello, fa comunque emozionare. Sì, poi ti dico, dovevi tartagliare un po' di più. Sì, nella... no. Ma sai, mi sembra di fare quasi un torto al doppiatore. No, questo per dirti la tecnica utilizzata. Poi te lo racconto fra poco, perché io ho doppiato un paio di film Woody Allen come protagonista. E tu sai, quando c'è Woody Allen c'è uno che assomiglia a Woody Allen, devi recitare in quel modo, perché Woody Allen lo fa recitare così. E Oreste c'è stato sopra giornate intere. E allora, tra pochissimo con i nostri amici, per ascoltare il primo di Giovanni, per stare ancora un po' qui con Alberto, per stare ancora un po' qui con voi a Voice Anatomy. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Ed eccoci ancora qui per l'ultimo momento insieme, gli ultimi 15 minuti prima di passare la linea a tutti i convocati. Siamo qui a Voice Anatomy, vicino a me l'imitatore dei doppiatori, il doppiatore dei doppiatori, Alberto Pagnotta. Dall'altra parte c'è il nostro amico Giovanni Mitra, futuro avvocato, magari penalista, con il grande piacere di amare il doppiaggio e l'attore e la recitazione, che ha mandato, come altre persone, nella nostra voice box il suo provino, che noi metteremo sicuramente in evidenza come gli altri, senza raccomandazione, senza soprattutto promettere lavoro, perché assolutamente non vogliamo fare questo. Ha fatto il provino con quel bellissimo monologo di Woody Allen. Ti dico, quando noi doppiamo Melinda, la difficoltà era... Oreste Leonello era fare Woody Allen, chi faceva il protagonista, e il suo tartaglio non era ma era allungare le parole e soprattutto alleggerire le frasi e cercare di non perdere il via per assolutamente andare fuori sync. Ed era una cosa difficile, anche perché quelle battute sono nate per funzionare in quel modo. C'era un momento in cui lui diceva si era innamorato di questa Melinda, ma lui era fidanzato, Will Ferrell a sua volta, e non poteva, era molto geloso il fatto che con la moglie cercavano un fidanzato per questa Melinda. La moglie lo dice a un certo punto: «Senti tesoro, ho trovato un'altra possibilità per la nostra amica Melinda, è un dentista, che ne dici?». E lui gli risponde: «No, anche l'altro ieri l'abbiamo fatta uscire con un dottore, un internista, e la differenza è soltanto orale». Cioè, era divertentissimo, difficile, e come Woody Allen è così sarcastica, cioè, ma funzionava soltanto con quel modo di strascicare, allungare le vocali, e quando perdevi il sync dovevi ricominciare da capo. Per cui tu immagina 9 ore al giorno là dentro. Io quando tornavo a casa: ho fame, stasera no, eccetera eccetera. Alberto, insomma, non mi fai il Signore degli Anelli. Non mi vuoi? Aspetta, non mi ricordo. Fratelli miei, figli di Rohan. Quella... Verrà il giorno. Leggo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. No, verrà il giorno della sconfitta, Ma non è questo il giorno. Ma non è questo il giorno. Allora, se mi devi fare, fammi bene. Allora, amico mio Giovanni, facciamolo. Eccomi. Questo provino. Che cosa hai preparato? Mi hai detto un monologo. Tratto da un romanzo, La regola dell'equilibrio, di Gianrico Carofiglio, che appunto scrive di un avvocato, Guido Guerrieri, che è il protagonista. In questo caso ha un momento di crisi mistica interiore, diciamo. E così. Allora, un minutino e mezzo, ti ascoltiamo volentieri. Gli eventi importanti della mia vita sono accaduti per caso. Se c'era un disegno, non me ne sono accorto. Ho studiato diritto per caso, o per ripiego, o perché non avevo avuto il coraggio di chiedermi cosa davvero avrei voluto fare. Forse temendo che scegliere implicasse una responsabilità di cui non ero all'altezza. Allo stesso modo mi sono ritrovato a fare l'avvocato, trasportato dalla corrente, dicendomi che però, in fondo, quel lavoro mi piaceva, che comunque la vita è un percorso fatto anche di compromessi e che è da adulti accettare questa verità. Giustificazioni, per lo più, che sono come certi scogli appena sotto il pelo dell'acqua. Ti ci puoi appoggiare, ti ci puoi aggrappare, ma puoi anche andarci a sbattere e farti molto male. Avevo un'immagine di me e cercavo di corrisponderle, in un modo o nell'altro. In caso di contrasto con la realtà, era la realtà a doversi adattare. Ma è un meccanismo che non può durare per sempre. A poco, perdi l'equilibrio. Bene, bene. Molto intensa, ecco, questa è una cosa che ti assomiglia già di più, insomma, però la strada è buona, 25 anni, sei giovane, non hai nessuna esperienza di questo tipo ed era piacevole ascoltarti. Grazie. Ma perché poi ti piace così tanto? Come mai? Ma guarda, l'approccio con la voce per me nasce in modo assolutamente pratico, quasi empirico. Per varie ragioni mi è capitato comunque in questi anni di parlare in pubblico e mi rendevo conto che preparare il contenuto non bastava se si voleva effettivamente coinvolgere il più possibile la platea, diciamo. Senti Giovanni, però ci giochi poco con la voce, nel senso, certe volte sembra che ti prendi molto sul serio. Quando un attore si prende troppo sul serio, la gente non crede a quello che sta dicendo. Allora, per convincere questa giuria, ti chiedo di leggere quella due righe del monologo di prima in maniera folle, divertente. Perfetto, grazie. Vai, due righe. Avevo un'immagine di me e cercavo di corrisponderle in un modo o nell'altro. Più folle. In caso di contrasto con la realtà. Anzi, ma stai facendo l'amore. Era la realtà a doversi adattare. E così stai a correre intorno al palazzo, Giovanni. Ma sono attività che si somigliano per certi aspetti. Va bene, Giovanni, mi sono permesso di giocare perché è vero, quello che ho detto lo penso, devi ironizzare. Ironizzare non significa prendersi in giro, significa proprio giocare con le cose. Tu pensa che gli attori si chiamano i player all'estero, i jouer in Francia, insomma dobbiamo giocare. Tu sarai un grande avvocato e perché no, con un bellissimo hobby o magari il contrario, non lo so, tutto può succedere in questa vita folle. Giovanni, grazie davvero. Grazie a te, grazie. Ti abbraccio. A te. Ciao, e Pino, buona vita. Ciao. Grazie, a presto, ciao. Grazie. Arrivano altri messaggi, tanti. Questo ragazzo è veramente bravissimo, si riferisce a te. Grazie. Alberto, com'è che non sta lavorando molto? Ma guarda che pure io non sto lavorando tanto, non ci stanno tanti film. Spero il meglio per lui dopo questa ospitata, sarebbe uno spreco. Questo è Mauro dalla provincia di Catania, un altro messaggio di Giuliano, complimenti. Grazie. E c'è un'altra persona che allora dice: le ho scritto su Facebook, se le interessa posso fare la storia della voce, ovvero dagli spettacoli dei teatri di Roma antica e o comunque della sua evoluzione nel tempo. Beh, divertente, prenderemo sicuramente. A parte Roma antica possono essere interessanti gli aneddoti nella Roma papale del 5 al 19 secolo, ovvero con la fine del dominio papale. Buon lavoro, non dico in bocca al lupo perché ritengo crudele la risposta. Beh, non è mai, perché crepi, è brutto. Ma infatti si deve rispondere grazie, perché grazie. Si riferisce alla lupa a Roma del Remo. Beh, io non posso dire così perché poi si offende il mio fonico, sembra che io ce l'abbia con la squadra, non c'entra niente invece, non so. Ecco, no, viva il non lupo, mi ripeto, viva. Quindi dice in groppa al toro e crepi il torero. Ha tirato fuori un'altra cosa che vocalmente quasi non c'è, quella della balena, non ve la dico perché potete immaginare qual è. E allora, caro Alberto, come vuoi salutare il tuo pubblico, quello che sta spingendo, che sta facendo il tifo per te? Saluto chi mi segue con la tua voce. Sì, no, se vuoi anche con Peter Griffin, con Mino Caprio. È vero, Mino. Io faccio American Dad invece, che è sempre Seth MacFarlane. Esatto, McFarlane. Sì, me lo fai, Mino, com'è? che non è facile. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Cacchio. Bene. Caro Alberto, grazie di aver partecipato a Voice Anatomy. Grazie a tutti quanti. Non abbiamo ancora finito perché io mi collego con tutti i convocati, con l'amico Giovanni Capuano in studio. Eccomi, Pino. Ci sei? Allora, Gio, mi devi ripetere questa cosa della lupa, perché poi ti dico cosa ha fatto quelli che della lupa sono avversari. Io non so niente, infatti, nessun tipo di risultato. Com'era la cosa della lupa? Ah, no, che non si deve rispondere crepi, perché è un augurio bello, perché si riferisce alla protezione che la lupa diede a Romolo e Remo, e quindi bisogna rispondere grazie o viva il lupo. Me l'ha detto Aurora Cancian, questo. Viva il lupo, ma non viva la lupa, giusto, no, Pino? Però ti do l'aggiornamento che ti interessa. Dammelo per ultimo il mio. Allora, ti dico, Torino è secondo in classifica in questo momento perché ha vinto 2-1 contro il Palermo. Tra l'altro, andatevi a vedere il gol di Benassi, meraviglioso, ricorda Van Basten nel 1988, da dentro l'area, incrociato, meraviglioso, sull'incrocio, bellissimo. Io sono un po' torinista, devo dire che ognuno di noi, ogni italiano deve essere nel profondo un po' torinista per la storia del grande Torino. Io quello l'ho fatto vedere anche ai miei figli. Va bene, vai avanti. Poi Sassuolo e Chievo 1-1 nella prima partita del campionato di Serie A senza polizia, se ti interessa te lo dico. Senza polizia. L'Udinese ha vinto di rimonta 2-1 a Bologna. Perdeva 1-0 con Mugnier, poi nel secondo tempo la ribaltata con Badu e Zapata. E di rimonta ha vinto anche la Lazio. No! 2-1 a Verona. È andata così. Ho fatto il signore per ore e mezza con la voce. No, hai fatto il signore per 2 minuti. No, sono contento. Sapevo il rigore di Biglia. Rigore 1-1. Di Biglia al 18° del secondo tempo. Il Verona si era portato in vantaggio con Elander intorno alla mezz'ora del primo. Elander, e poi non è il film. No, Elander. E poi a 3 minuti dalla fine ha segnato Parolo su calcio di punizione. Una mezza dormita in realtà del portiere del Verona. Però questo significa che la Lazio si arrampica su fino al terzo posto, pari alla Fiorentina. Poi vediamo cosa farà la Fiorentina questa sera con l'Inter. Ma in questo momento dietro all'Inter a 15 c'è il Toro, 13 punti, e poi c'è un gruppetto di squadre a 12 dove c'è la Lazio, c'è la Fiorentina e c'è anche il Sassuolo, che è una delle sorprese di questo inizio di stagione, un po' strano. Sì. Va bene, Giovanni, salutami gli altri due compagni di viaggio. Ogni tanto Pardo lo sento. Pardo è in autostrada. No, Pardo sta sempre da qualche altra parte. È in autostrada, ma sta arrivando qui. È sulla Genova Milano. Cacciatelo via. Giovanni, buona trasmissione a tutti i convocati, grazie davvero. Grazie anche a te. Un abbraccio forte, grazie della bella notizia. A questo punto non mi resta che salutarvi tutti, grande abbraccio, ci vediamo domenica prossima. Grazie dall'altra parte del vero a Giusi, grazie a Valerio, grazie ai miei registi e autori, Filippo... Gaia, Gaia, oddio, vabbè. Filippo Cellini, grazie a Damiano Fabiani Berti, grazie a Alessia Navarro, grazie a tutti voi. Voice Anatomy torna domenica.